bianca, rossa, blu, sono diversi colori. E abbiamo, sono state provate, ne ho preso anch'io da Fuzzaro, di quelle lì, perché qua sotto libro l'ho preso io per... L'ho presa Costanzo straniero, che l'ha dovuta dare subito perché non andava bene, te l'ho detto, l'ho presa amici miei di Olbia, presa e buttata via, l'ha presa un amico qua di Ottava, l'è presa e concediata e buttata via. L'ho presa io, non ce l'ho buttata. Il modello nuovo, la carica è fermata tutta diversamente e non serve a niente. È meglio una Sigma 800 e va meglio di quella lì. Guarda, l'ha provata soltanto una roba e glielo ho fatta riprendere io la 5000 perché le usciva, sono sorde quelle antenne e non escono. E se poi c'è la radiomatica, sono proprio sorda, un'antenna sorda. Lui, se non mi sembra vero, cioè quello che mi stai dicendo lo porterò a conoscenza di chi, non è che mi prende in giro, poi a me mi si prende in giro una volta solo, sono come il cipresso, una volta che lo tagli non cresce più in altezza, e così è la fiducia. Tu mi stai prendendo per in giro nel senso che mi dici che mi stai facendo un grande sconto e dopodiché non è così. Ma vedi, faccio un giro di cose e tu mi dici così, Massimiliano mi dice qua, alla fine vado a lui e gli dico, beh, caro amico, li mando da un'altra parte, punto. Tu mandare uno a caso, senza dire niente che di associazione, tu manda e tu cerca un amico tuo, senza comprarla, guardi quanto mi viene a costare, quanto me la lascia una 2001. Dai, poi vedi, questo è tutto il che posso prendere, 82 ti ha detto, 82 non l'ho presa io una volta, poi ti ho mandato a altra gente, poi ti ho mandato a tutti, perché la 2001 non va più bene. Se prendi la 3000, la Rambo, sono migliori, costa qualcosa in più, però sono migliori come antenne. La Vecchia 2001 sì, è la ultima, è una buona antenna, la Vecchia però quella blu, celeste, azzurra e nera, quella è l'ultima, era buonissima, però il modello nuovo che stanno facendo essere quella gialla, bianca, rossa, non servono, sono sorde complete, non vanno bene come antenne. Oh, chi ci ha messo? Ma io ce l'ho avuta sia quel modello nuovo e sia il modello vecchio. Tu lo sai che io ho avuto sempre la 2001 e a me non mi ha dato mai problemi nel modello nuovo o nel modello vecchio. Infatti me l'ho ricomprata nuova e ce l'ho ancora dentro la busta, quella non l'ho niente aperta. E l'altra ne ho due di quelle vecchie. E sempre e due di quelle nuove, una ce l'ho dentro la busta chiusa. Tu ti dico una cosa, io l'ho comprata e l'ho pagata di meno di 59 euro, però costa 65 euro che voleva lui, capito? Dice così, ma te la dà quel prezzo lì, ti dice che costa così e te la dà quel prezzo lì, che hai capito, con un miliardo. Sì, io l'ho pagata 58 euro la 2001, l'ho pagata 58 euro. Così l'ha pagata, ti ho mandato io, ho preso una io pure, l'ho pagata così, capito Anto? Ecco il discorso da un vero. No, aspettate un attimino, allora se lui fa un prezzo agli associati pari a quello che fa a una persona che conosce bene, come potete essere voi due, con cui ha confidenza, con cui c'è un rapporto di anni, allora per me sta anche bene. Se però lo tratta come uno qualsiasi, che cioè lo stesso sconto che fa a tutti, allora non mi sta più bene. Quindi non so quanto il vostro metro di paragone sia valido, nel senso che se voi siete persone che conoscete sia Marzia che Antonello, va bene così, cioè che lo dia lo stesso prezzo. Se invece non avete questo rapporto con Fuzzaro, allora un po' mi rompe, mi urta, capito? Allora, guarda, io ti dico una cosa, io con Fuzzaro non è che ci abbia questo rapporto, sì, lo conosco perché compro e faccio, però la lascio così. Anche se a te ti fa 59, ma fai che ti faccio anche 60, come prezzo buono, però se va qualsiasi, 60 euro non ha, capito? Non sarà questo euro alla fine. No, allora non va bene. Allora ne dobbiamo riparare, vabbè, io ho detto che ci saremmo sentiti a seguito poi di una riunione che dobbiamo fare per vedere un attimino le cose. Quindi lui ha fatto una proposta e noi faremo una controproposta, è importante. le persone siano limpide, però, perché non mi piace, le prese in giro non mi piacciono molto. Comunque, mi fa piacere che mi abbiate detto questo, perché io realmente di antenne di macchina non me ne intendo, di barre mobili. E niente, buono sapersi, perché ti ripeto, mi do il beneficio del dubbio che ci siamo capiti male, dopodiché riprenderemo il discorso a seguito di questa riunione che dobbiamo fare. Riprendi qua. Io purtroppo ti devo aggiungere un'altra cosa, che io l'ho comprato a Mauro, io personalmente, dal 2001 Turbo, da tanto, quella praticamente non quella che ha detto Luigi, l'ho pagata 48 euro, ma io con loro ci conosciamo molto, molto, molto bene. Ripeto, se io dovessi andare a comprare, ad esempio, di MB più 4, MB più 5, li ho fatti ordinare io, perché mi richiedevo e andavo a comprarli io. Chi andava a comprare l'MB più 5 lo pagava 59 euro, anzi forse anche di più, e io lo pagavo 45 euro, quindi. Ti ripeto, non so questi 5 euro, che 5 euro lo sai meglio di me, ce li spendiamo per il caffè, però è per una questione di limpidità e rapporti, capito? Boh, vabbè, valutiamo, andiamo oltre. Allora, Brecco. Sì, un attimo, è registrato. Allora, vi prendo io, vi saluto tutti quanti, così non mi dimentico nessuno, dai, che io devo scendere perché siamo questo triciclo, e se ci siete vi prendo più tardi quando me ne vado, se no vi auguro buon consiglio, vai, buona serata e buona continuazione. Bulldozer qua Massimo, il nord Sardegna vi ha salutato. Cappa. Ciao Massimo, le prendo io allora. Un saluto a te famiglia, ci sentiamo dopo se coincide. Avanti break. Buonasera Antonello Barracuda. Scusate un attimino, lasciatemi il tempo di salutare Massimiliano Bulldozer, ben sentito, ben ascoltato, e ci sentiamo le prossime se coincide. Avanti Gigi Vulcano per i saluti e dopodiché rilancio anche voi per far entrare, comunque salutare il break. Dicevo, ciao Massimiliano, ce la riascoltiamo nei migliori. Ciao Antonello Barracuda, vieni avanti, dai, ti rilancio io. Ma c'è un solo, non so se l'ha salutato Claudio, l'ha salutato a Massimiliano, scusa che ero un po' distratto. Scusa Antone. Sì, ho portato i miei saluti a lui, a lui e a famiglia. Avanti Antonello, buonasera, ben arrivato. Via, buonasera a tutti. È un po' comodo questo dire tutti, eh. Quello se ne va, saluta a tutti, questo entra e saluta a tutti. Antonello Barracuda, ma lo sai che comunque mi sembra che abbia un blocco qua questo Smitter, perché più di 9.10 se ne è in AM non va. Dammi un controllo, non sono solito chiedertelo, lo sai. Dammi un controllo, come sta arrivando lì a Ossilandia? Qui Santiago 8, Radio 5. La modulazione della radio, come mi senti? Bene, bene, tranquillo. Leggermente, ma proprio, se ti sento, leggermente nasale, però molto comprensibile. Leggermente nasale così? Guarda se così un attimino cambia. Aspetta che sto aprendo lo svizzero da più vedo, così come va? Così va bene. Allora la prendo così, dai. Provate il radio. Ma lasciala stare, come hai detto, metti la molletta. Ascolta, adesso che è entrato Antonello, due minuti con Gigino, fammi una bassa dall'Omitel, da quello di Chiara a quello di Laria, così non spendiamo niente. Un attimo, ti devo dire una cosa molto importante, Anto, un secondo solo, anche mentre stai masticando, un secondo solo, quando squilla poi mi allontano, riprendi Luigi, a quello di Laria chiamo, due secondi prima che se ne vada via. Cava, adesso, due secondi e 5-4-3. Io dai, io faccio due chiacchiere con Antonello. Antonello, allora, cosa mi racconti, Antonello? Stanca. E la verità, stanco, tanto, tanto, tanto stanco. Perché sei stanco? Perché c'è troppo caldo? No, la verità, il caldo io lo sopporto, anzi, no, non mi fa niente, no. Sono stanco mentalmente, molto molto stanco, bisogna di riposare un po', la verità. O voglio dormire almeno 2 giorni, ma non ce la faccio, la verità. Quando dormo con le 6 ore di nuovo in piedi, no, sono molto molto stanco, la verità. Caldo, le ho tutto questo, però intanto non fanno la cosa, infatti non è che sono. Ma tu non sei a casa, sei in macchina, perché sei molto basso come segnale. No, già sono a casa, sono a casa e sarà ancora, mi ha detto forse più alto pure, perché ho quella radio. Allora io faccio, le devo camuffare a uscire più poco le radio, hai capito? Non uscire più forti, io cerco di abbassarle e farle uscire più basse. Sempre per quella storia dei negozi, nei dintorni. Positivo Antonio, allora cerco di chiuderle. Questa è una radio che va solo esclusivamente a 4 watt. Capito? E questa è una radio, ne potrebbe buttare il topo, come dice il concetto quello del futuro, il topo da sopra la trappe. No, sei Santiago 7, una radio di 4, però la voce molto lieve, capito? Molto lieve, a volte per dire quando aumenta leggermente il QRM sei in mezzo lì, capito? È positivo, dai, però se parlo così passiamo anche la voce, dai. QRM superiamo. Io dico di sì, Adesso è tutta un'altra storia. Ho cambiato la tonalità della voce, si sente? Sto cambiando la tonalità della voce. Prima stavo parlando piano con la tonalità di voce, adesso ne sto facendo un'altra, capisci, Antone? Ehi, adesso sì che va bene, adesso sì, adesso già è vulcano, già. Positivo e caparroglio, dai. E dipende com'è, se io parlo così è una cosa tutta diversa, capito? Antone, se io parlo così è una cosa tutta diversa. Eia, già comunque oggi ha detto una bella passata di caldere te l'hai presa, sì, durante i tuoi lunghi viaggi. Positivo e caparroglio, ho anche visto, ho avuto l'occasione di vedere tanta gente, tante cose, dai. Durante il viaggio già se ne vedono di cose, la verità. Comunque ha fatto bene, ha fatto bella giornata oggi lo stesso, anche se non me l'ho goduta, perché se rimane sempre richiuso sempre nel panificio, dunque mattina e sera non te la godi la giornata, la verità. Invece viaggiando sempre, diciamo, molto più all'aperto, là, te la godi pienamente tutto l'arco della giornata. E dunque alla fine sei sempre lì in penombra, dove sono io, con un forno che è acceso 10-11 ore a 545 gradi, e dunque lui già fa la sua parte, per avere una certa temperatura, poi diciamo il tappeto viaggia veloce, in modo da cucinarlo al punto giusto, la temperatura è quella. È positivo, è positivo. Ma li usi, il forno di pane li usi? No, a Valghero. Ah, Caparroggio, dai. Caparroggio, fai anche il panettiere allora. E la fine ho fatto tanti lavori, mobiliere per 12 anni magazziniere, poi ho lavorato in caseificio, poi ho lavorato nei tarceventi, poi ho fatto il manovale in tonacchino, e poi sto facendo il panettiere. E io ho fatto tanti lavori, è la verità. Ah, è positiva che lavora anche a Scala di Gioca, allora al Cercimento. No, lavorato a Cuneo, a Borgo San Dalmatto, quella zona lì. Lì stava bene, la verità. Ho lavorato per un po' di mesi, poi purtroppo all'epoca sono entrati gli spagnoli, un'azienda spagnola che a quanto pare ha fatto un ottimo prezzo e dunque tutti gli italiani a casa, li hanno preso loro le redini della situazione lì. Tutti a casa purtroppo, lì già stava bene, era bello il posto, la paga era bella, ti lavorava bene, non ti mancava niente, però alla fine sai come funziona, chi offre di meno vince sempre. È positivo, oggi sono andato ai tarceventi, però di stamattina sono portato una saldatrice o una specie di frangia grande per la meccanica costruzione, perché le cosa del fatto che la meccanica, del saggimento la fa la meccanica costruzione. Infatti, che poi mi sa che a Sarsa non esiste più, io lavoravo per la meccanica costruzione che è lì a Perdanietta, mi sa che non esiste più, ha fallito quello, vero, a Sassari. Ma già c'è la meccanica costruzione, già tutte quante le appalti delle cimenterie, dei saggimenti. Ah ecco, poi sicuramente lavoreranno, diciamo, per quelle che sono rimaste fuori dal nord Sardegna, è arrivato a un certo punto, perché purtroppo, lo sai benissimo anche tu, quella lì di Scala di Gioca è completamente in disuso. E lì alle stagimenti di Samantai, in Italia, ci sono operai che hanno voluto da loro la meccanica costruzione, che sono quelli che portano la meccanica costruzione dentro, sono diversi operai dentro Samantai. Ma la fine diciamo che è l'unica che c'è in Sardegna, quella di Samantai. Allora c'è anche a Siniscola, però la Sargementi è quella di Samantai, e anche a Siniscola, capito? Ah, ma tu lavorate con la meccanica, hai detto, non capito? Sì, con la meccanica costruzione, esatto, quella che era città che è lì a Predanietta, che poi si vede anche passando la 131 per direzione Cagliari. E si vede gli operai a Cuneo, a provincia di Cuneo, però diciamo dove c'era lì l'impianto era Borgo San Dalmato, che era 10 minuti un quarto d'ora da Cuneo. Io lo so, andate a poco a portare una specie di gru che c'era qui a Sassari, una gruetta che c'era qui a Sassari, mi ha dato la legge con le gambe a portarla lì, mi ha portato proprio lì. Stava bene, guarda, il posto era bello, la gente gentilissima, era un pochettino cara, diciamo, come zona, che per questo paesino, se ti fidi, è grande quanto Tissi, e poi c'è il limone lì in zona, quella zona di montagna, all'epoca c'era la neve, e stava veramente bene, una bella esperienza lì, purtroppo è andata male, comunque stava veramente bene lì. È positivo, voglio dire. No, già lo so, già facciamo noi viaggiare la meccanica costruzione delle attrezzature, facciamo quasi andare sul continente, portare qualche mezzo che portano da qua, tipo quella che usiamo sempre noi. Allora, sei andato lì a Borgo San Dalmato? Io personalmente no, però lo so che c'è andato da poco, e un paio di mesi fa c'è andato Sergio. Lì c'è andato già un paio di volte, ecco perché te l'ho detto, lo so perché ci siamo andati già un paio di volte. Ma molto bello, una bellissima zona di montagna, guarda, ci sto parlando un po' di anni fa, c'erano delle case giustamente con dei cortili che erano già fatte le case, c'erano piccoli terreni dietro casa, come erano qua 20 anni fa, erano galline e maiali, come 20 anni fa qua in paese. Io non ci sono mai stato, non ci sono mai andato lì, sono andato in tanti posti, lì non ci sono andato, sono andato col canale, due volte col canale siamo andati. Già va bene, comunque oggi è fatto dalle 4 sino alle... Certo, da lunedì a stamattina alle 4, capito, c'ho da lunedì che ce l'ho sveglia alle 4 io. Già ne hai fatto, va, la verità, già ne hai fatto. E voglio anche di fare lì a modulare, vedo che già sei abbastanza forte, almeno se non sei bello il tuo lavoro, e almeno lavori e nessuno ti rompe le palle, così è. No, già c'è qualcuno che ti rompe le palle e te le rompe veramente, ma veramente, e ti tocca anche il portafoglio un bel volte. Ah, così è, questo non lo sapevo. Diglielo, una delle persone che ti rompe le scatole e uno che ti passa con una fragola a fianco e te ne fa la fiancata, di la verità. Ah no, quello non ci fa nulla, quello non ci tocca neanche, è la stradale che ti, che ti tocca il portafoglio un po' di volte. Lì sta fine, sto fuggendo da sotto, stiamo mettendo le gambe sopra e sto fuggendo la poltrona. Prego. Eia, scusa un attimo, tu perché sei così forte? In che senso? Io perché sono così forte? Perché ho mangiato gli spinaci? Scusa, non lo sai. No, negativo, non so perché, come mi senti? È totalmente diverso dal primo passaggio che ho fatto prima di entrare, anzi, qua quando sono entrato. Mi senti diverso? No, sicuramente uguale, non ti sei reso conto. Almeno credo, aspetta. No, uguale, uguale. Non te ne sei reso conto, forse avevo una distanza dal mic, quello dell'Intec, un attimino diversa, quindi adesso si sente un attimino meglio, capito? Stavo dicendo, ci siamo incontrati avantieri col Vulcano, a metà della strada per Charlie Alfa, e gli sono passato talmente veloce che più o meno gli ho sposto la barra pesante, capito? Avanti! Buonasera a tutti, sono rientrato, quello che chiedo permesso di QRX, vado a mangiare e poi riprendo, quindi un saluto per Luigi Vulcano, per te Antonello e famiglia, e per te Antonio e famiglia, anche se è corta, però è famiglia. Vado a mangiare un boccone e poi riprendo, vai, Claudio Sparviero momentaneamente in QRX, avanti Antonello Barracuda. Appetito, ci sentiamo dopo, dai. Sì, una vergogna, anzi, cioè, era il caso di dire è corta, nel senso che è bassa. Perché non stavo parlando in quel senso, dico famiglia corta, nel senso che non ci sono bambini, non c'è grande QRA, quindi un saluto particolare sia a te che alla tua famiglia corta. Purtroppo adesso devo intervenire io, Cla, non è vero che famiglia corta, di bambini ce ne sono due, si chiamano Gasperino e Ferruccio, sono pelosi, hanno la coda, ma sempre bambini sono. No, sono due rompi pipiristi di gatti che ogni mattina rischiano la vita, capito? Perché rompono talmente gli alveoli che una di queste mattine gli gira il collo. No, guarda, io sono animalista e mi piace fare i gatti, perché secondo me sono gli animali più dolci e più affettuosi da poter tenere in casa, a prescindere da quelli che a cui non piacciono. Beh, va bene Chiara, quindi mai capito, sì, era una cosa un po' ristretta, ma comunque era un saluto circolare anche al QRA, che poi siano corti o lunghi è sempre QRA. Ah, io ho detto dai, va bene. Luigi, riprendi tu, metti un po' d'ordine, perché Antonio stasera è proprio, prima mi provoca con la stampa, adesso mi provoca corto, lungo, i gatti, boh, non lo so, vedi tu, vado a cenare e ritorno. È positivo, fatti buona carica, buon tutto Claudio. Arturo, una cosa solo ti dico, se entrano in mano a me, mi faccio il forno con le patate. E allora invitami però, tieni un po' da tavola, perché sono al pari del coniglio. Tu immaginati che quello che faceva la prova del cuoco, Bigazzi, siccome ha detto una cosa del genere, l'hanno licenziato in tronco. Quando tu chiediti come mai in tempo di guerra non se ne trovavano di gatti, perché erano meglio del coniglio, capito? Una volta che gli tagli la testa e le zampe e la coda, non si capisce più cos'è. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Io non ci riuscirei a mangiarla, dico la verità. Però volevo confessare che in passato l'ho mangiato, fatto al forno, il forno a legna addirittura, con le patate. L'ho assaggiato, ero un ragazzo, l'ho assaggiato, dico la verità, il gatto. Erano due gatti belli grassi e l'hanno fatto in forno, dico la verità. Però non capivo bene bene all'epoca, perché ero un ragazzo di 15 anni, massimo. Se proprio per massimo esagerare 12 anni avrò avuto. E l'ho assaggiato, l'ho mangiato un peso con le patate, l'ho assaggiato, dico la verità. Ma perché ero un ragazzo e non me ne rendevo conto, ma oggi come oggi, no, è perché il gatto è a casa, perché era arrivato a sera dentro casa, se erano in casa, questi gatti che erano fatti in forno. Però il gatto si fa fuori al giro, mangia zuppi, mangia cose, c'ha malattie, c'è quello, e pensandoci oggi no, non l'avrei mangiato, capito? Pensandoci proprio oggi. Guarda, non hai detto una cosa non veritiera, nel senso che fino a 14, forse 20 anni fa, nel calendario venatorio, per chi ha fatto il cacciatore, esisteva anche all'interno il gatto selvatico, che era un gatto che esisteva in Sardegna e si riconosceva da quello domestico per piccoli segni, che molto spesso, non essendo riconoscibili, ci passava di mezzo anche quello domestico, motivo per il quale l'hanno tolto dal calendario venatorio. E gatto, il gatto selvatico si riconosceva tramite delle dei peli che aveva sulle orecchie, cosa che il gatto domestico non aveva. E si mangiava tranquillamente nei paesi, tuttora secondo me qualcuno se lo mangia, quindi non è detto una cosa né crudele né sbagliata, era pari di un altro animale selvatico dell'allevamento. E che, ti ripeto, neppure meno i giapponesi adesso allevano i maialini, e a questo punto non dovremmo più mangiare maiale, non sono d'accordo. È positivo, no, ripeto, tanto dico, siccome quello va bene, era il gatto che c'avevamo, era il gatto che avevamo in casa noi, hai capito? E c'avevamo addirittura dentro casa, si può dire, questi gatti, erano belli, grossi e grassi, e insomma, dai che le facciamo, dai, perché ero stato mio cognato col cugino, era stato con mia sorella, allora si birfuga, queste cose le mangiavano, so che se lo mangiavano i gatti, le facevano sparire, e questi siccome erano belli grassi, belle cose, e sino che l'hanno fatto davvero, sino che l'hanno convinto mio padre, e infatti l'hanno questi due gatti in forno, l'hanno ammazzato e l'hanno fatto in forno, capito? Il forno a legna, sotto il forno a legna, con le patate, e dico, il gusto sembrava, non ricordo ancora, era buono, non era malvagio. Però oggi, come oggi, manco se mi punti una pistola te lo mangio, sapendo quelle malattie che portano, cosa mangiano, capito? È una questione di fame diversa, capito? Assolutamente. E tu, Antonello Barracuda, ne hai mangiato gatti? No, gatti no, però piccioni e passeri sì. Questa è la passeri che ho mangiato io. No, il piccione però lo devi far frollare perché c'è la carne bella tosta, è un attimino coriaceo. No, la verità è dolce il piccione. La verità, invece il passo deve avere almeno una quindicina, col sugo, guarda, è una meraviglia. Infatti quando ero piccolo andavo in campagna, andavo prima in negozio, compravo il vischio, impregnavo i petti di legno lì in una vasca che c'era in campagna con l'acqua, giustamente, e ogni mattina, ogni sera andavano a bere, e poi la sera andavo, li prendevo, tiravo il collo veloce e poi li portavo da mamma, spennati, puliti, e me ne preparava col sugo. Dico che sono veramente buoni i passeri. Invece il piccione me l'aveva fatto arrosto. Scusatemi se intervengo, ben sentito Antonello e anche a Gigi Vulcano, ma sarebbe possibile, senza ovviamente disturbare il vostro questo, cambiare poco argomento? C'è problema, se vuoi ti illumino un pochettino. No, ti prego, non ti illuminare, ti prego. Che si chiama, che hanno parecchie persone che sono cosiddetti vegetariani, che sono l'alter ego delle pecore, capito, dei ruminanti, che hanno Omabo e Abomaso, che hanno due tipi di digestione, Omaso e Abomaso. Omaso e Abomaso, che sono due tipi di intestino, con uno buttano dentro e dopodiché rigurgitano e rimasticano bene, è per quello che si chiamano ruminanti, perché stanno sempre ruminando. Ho capito. La devo illuminare nel senso, adesso ti spiego un attimo, aspetta, eh. Ok, allora, per sabato 27 agosto, centro storico, ingresso libero, c'è questo music art che interessava a Pulicina. E niente, sono artisti di strada, artisti visivi, poi tissate, vabbè, attrazioni, installazioni urbane, esposizioni di artisti locali. È sempre soggiorno verso la notte, alle ore 23, ci sono i Tamurita e gli Ascra. Questo è per sabato ed è abbastanza interessante. Invece domenica 28 c'è la sagra della Matta Brisa. L'hai mangiata la Matta Brisa, sai cos'è? Sì, è una cosa grassissima, calorosissima, fatta dal latte cagliato, credo, da una cosa del genere. Esattamente che cos'è, ti stupirai se ti dico che l'ho mangiata. Perfetto, niente, per illuminarti volevo intendere questo, proprio per cambiare argomento di culinaria, e dico, è veramente buona la matta frissa, ne mangi un piatto e sei come si dice in paese, a tatta per due giorni con lo stomaco pieno. Niente, fatto sta, sono queste due serate abbastanza interessanti, e via. E ho fatto la domanda un po' di mesi fa e dunque ti sto illuminando. Prima o poi lo trovo il foglio e infatti ce l'ho in mano. Sì, però parla bene, cosa significa questo culo in aria? Culo? Culo in aria? Sì, adesso perché devi dire le parolacce, ma come ti permetti? Se lo intendi in quel modo, sinceramente stavo neanche pensando a culinaria. Comunque, fatto sta, quella è una parola in sardo, che anche in italiano è la cambia totalmente diverso. Fatto sta, se ti interessa, sabato 27 inizia questo Music Art alle ore 5, sino a proseguire a mezzanotte sono questi Tamuri Tagliasca, e poi tutti gli artisti che ti ho letto. Sono abbastanza interessante, centro storico, completamente chiuso dal traffico, dunque tranquillamente a piedi per divertirti. E poi ripeto, domenica 28 agosto, sempre alle ore 5.30, e questo c'è la Matarrissa, con torneo di scacchi, moto di artigianato locale, dance school number one, che sinceramente non so neanche cosa sia, e poi altre attrazioni. Assolutamente sì, grazie per la info, ma quello che mi premeva di più sapere è, ma ci sono questi fuochi d'artificio oppure no? Fa una reazione un po' brutta, Sinceramente fuochi d'artificio quest'anno a quanto pare non ce ne sono, perché il comune sembra che soldi in tasca quest'anno non ne ha, per quanto so io, e poi nel caso se cambi l'idea ti faccio sapere, però per adesso, per il momento, sono disinformato, chiedo, ancora nessuno sa niente. Grazie per l'informazione, chiedo scusa anche che la Gigi Vulcano ci siamo sovrammodulati. Riprendi Gigi. L'ho detto, vorresti bisogna portarsi anche un rotolo di carta igienica se si mangia la massa fritta, capito? E, io da no, la faceva sempre, quando ero piccolino la faceva la massa fritta, però a me mi faceva subito mal di faccia perché è una cosa molto grassa, no? E se fai poi tu la notte e mangi quella, devi cercare il bagno o campo d'atterraggio, come dicono qua, hai capito? Hai perfettamente ragione, per certi versi potrebbe anche essere un po' cassana, ma forse è anche il caso di questa volta di cambiare argomento. No, è pesante, mi è grassa, mannaggia. No, la faccia è perché proprio si fa dal latte della pecora, è proprio quello grasso. La faceva, però a me non piaceva, dico la verità, già la mangiavo da piccolino perché la faceva sempre mia madre. Era molto grassa, molto, mamma mia, nauseante, molto grassa. Sì, la conosco. Una volta un cliente, dove sono andata ad ora di pranzo, che aveva un agriturismo, mi ha invitato a pranzo e mi ha fatto mangiare gnocchetti freschi con massa fritta, cioè non puoi capire, un mattone. E poi ci mischiava anche farina in mezzo, può essere, mi pare ci metteva anche farina, che fa impastata anche con la farina, mi pare. Sì, una cosa devastante, credo che l'alternativa al pasto sia l'intonaco dei muri. È positivo, no, lo so, lo faceva mia madre, piaceva mio padre, a me no, è una cosa che no. Faceva quello e poi faceva il giacato o Antonetto, forse oggi qualcuno lo fa, lo faceva, era il budino che si faceva in casa, era un tipo, si faceva come, si vendeva come un budino, come uno yogurt, però è tipo il budino, diciamo, il budino diventa una cosa cremosa, compatta, e questo qua si faceva con latte, taglio forse si metteva in mezzo, lo sai, e il taglio forse, che il taglio sarebbe il, cos'era, la ventre dell'agnello, era forse. La ventre dell'agnello che si metteva a ciccare, si metteva appena appena di questa cosa della ventre, e faceva il taglio, forse perché si fa dalla ventre dell'agnello il taglio. E poi metteva la scorza del limone in mezzo e si faceva questo budino ciacciato, lo chiamava. Questo era buono, era un budino che si faceva allora, io mangiavo 40 anni fa. gli aprilibatezze che ora si sono perse. Ma quindi mi vuoi dire che non ci vieni a questo musicart a Ozzi, che ci ha così brillantemente raccontato Antonello Barracuda? No, non ci vengo a Ozzi, ho troppi brutti ricordi, capito, a Ozzi. Nel tipo? Ho frequentato troppo Ozzi in passato, capito? Ci andavo troppo e troppo. Ma sai che cos'è? La verità è che io ho sempre detto che il camionista è un po' il marinaio della strada. Quindi evidentemente deve aver beccato Ozzi. Adesso non vorrei sbagliare, ma non credo si sia sposata Ozzi. Però lui non gli pare che va. C'ha una storia, capito? L'ho raccontata io la storia lì. L'ho raccontata alla moglie di Antonello, e Antonello gli ha raccontato la storia. Perdonami Gigi se intervengo e chiedo scusa a Antonello se non gli stiamo dando spazio, ma io non la so la storia, quindi il minimo dovresti raccontarla anche a me. Avevo una ragazza di Aus, capito? Passato. Andavo parecchio a casa sua, dei genitori, e andavo parecchio, dai, poi con lei ho passeggiato, un nipote suo, che era, perché era il marito di una sorella, era un carissimo amico mio, capito, e abbiamo battezzato un bambino nel lontano 76 o 77, non mi ricordo, forse nel 77, non fate già, non ricordo se del 76 o 77, ma non mi giuccio anche. Ma evidentemente senza nulla togliere a quello che è venuto dopo ti deve essere rimasta proprio nel cuore questa ragazza. No. Ci tenevo, dico la verità, ci tenevo per questa ragazza. E poi invece è andato tutto male, capito? È andato tutto male. No, tenevo di più un'altra di quella di Milano, ma Monteleone, quella che tenevo ancora di più qua, quella che tenevo veramente, con quella è andata male. Mi sa che c'ha ragione il Grod, che i camionisti sono come i marinai della terra, in ogni paese ce n'è una. Bella, sai cos'è? E questo è successo prima che facessi il camionista. Il camionista è venuto tutto dopo, qualche anno dopo. Perché hai capito come funzionava allora? Non lo so, dai. Però poi no, diciamo, dico, in passato quando ero scampolo, sì, dai, l'ho girato parecchio di paesi e ne ho avuto tante ragazze, dico la verità, da scampolo. Poi che mi sono sposato, no. Sono rimasto sempre fedele a mia moglie. Perché c'è un cuore romantico, è innamorato e hai fatto la cosa giusta. Antonello, riprendi. E chi è questo? Buonasera, questo è Siti, è la categoria di Gastone International, di Scena Sant'Angelo, però il mio è infine. Buonasera a tutta la rotta. Aspetta un attimo. Ma questo chi è? Daniele Radio di Cartone? Positivo a raggio, no? Buonasera, con ascoltato anche a me, Antonio Andrade, buonasera a Rita e l'altro vicino Vulcano, ma l'altro ancora non ho capito chi è. Qua siamo scendendo piano, ma al momento lento si accaccia, anch'io. Da modulante da Ozzi. Ma perché sei ancora in viaggio tu? Antonello Barracuda, lo segnando, buonasera. Signori, c'è un po' di bailame, un attimo, vedi, sei entrato, hai fatto un casino, Daniele. Ben sentito, 7351, comunque l'altro amico, come ti ha detto, era Antonello Barracuda, ma come mai sei ancora in giro tu? Non è vero, sei in ferie. E voi fate il descenso troppo arzillo, ma quando rientri? Dai, mi hai sentito, ben ascoltato, ci faccio piacere se rimani con noi a fare un po' di QSO. Avanti, Barracuda. Perché? La cortesia, abbassa un po' che non si capisce niente. E così, Daniele è di Potenza, Daniele entra di Potenza, c'è un eco che dà paura, assolutamente, bello sempre come al solito. Vieni avanti, Daniele. Perché? Avanti. Ma chi non ha mai sentito me? Eia, buonasera, mi hai sentito? Come mai oggi sei così basso? Cos'hai toccato? Io non tocco mai niente. Non tocco mai niente, io non ci cavo nei vostri inganni. Ciao Daniele, buonasera, ben ascoltato. E buonasera a tutti, Claudio Sparriero. Ho cenato, tranquillo, e adesso mi sono seduto qua a rilassarmi, quindi. Daniele, io quando usi l'eco, non so se poi ti possa rispondere Luigi, ma ti sento con questa voce in nasina, lui? No, io già prima l'ho ascoltato, insomma. No, allora Claudio, lui l'apparato l'ha fatto da una persona, l'ha fatto da Benedetto. Solo che Benedetto è un carissimo amico di Aosta, l'ho fatto conoscere a Valse, è diventato amico di Valse, è venuto a trovarlo un paio di volte a Valse, Valse è andato lì a trovare a lui, però non mi sono fatto mai fare anch'io da lui, non ho fatto mai mettere le mani, perché sono sincero, io nelle cose sono sincero, non mi sono mai piaciuti gli apparati nel modo che li fa lui. Capito, mi fa un eco che non mi piace, che tutto la radio che si sente il respiro, sembra che c'è più quel respiro, che non riesce a fare una radio bella, pulita, chiara, come può essere quella che c'è tu, ecco, Massimiliano, e fa un eco tutto quanto che si accavalla, capito, e non è colpa di Daniele, è colpa di chi gliel'ha fatto con l'apparato, capito. Quindi adesso ho capito il perché, no, lo sento molto forte, però l'eco è troppo accavallato, rimane la modulazione un po' nasina. Va bene, adesso ho capito. Quindi a chi tocca il microfono al Globe, avanti, riprendi tu e fai girare. Antonio! Cappa di Rodio, dimmi. Ma non ti sembra troppo basso, Claudio, come modulazione? Ho la mia impressione. Basso, quello di modulazione, non lo so, no, è la tua impressione, perché qua arriva sempre a bomba, non è che hai il refrain chiuso. Cazzo, non è che sei tonto, porca accidente. Hai ragione, scusa, mi hai trovato, guarda, distratto, che non vedi, dai. C'ho 40 anni di radio, tanto me non ci chiaro, anche perché non sono abituato né a chiedere i controlli né niente. Io ho sempre tutto sotto controllo qua, quindi me ne accorgerei quando la modulazione è bassa. Basta che guardo i picchi di modulazione della T250 e me ne accorgo subito. Ma mi chiamo Bingo Bongo, io mi chiamo Claudio Sparviero, l'originale. Dottor Bingo Bongo. Dottore di controllo, e non ce n'è per nessuno. Radio Sassari. Ora noi c'è lo schizzo di al contrario, perché ancora non sono qua sotto in galleria. Dopo che lo passo, allora va con lo scalo. Però sono di al contrario, va bene. Fa il giro anti-orario. Cosa Daniele, non facciamo fare parte dei muratori del culo sangue? Lo facciamo nell'associazione a Daniele. Ma non è quello sangue, credo. Bisogna che diamo un ritocco a quella, la voglio più mascola quella modulazione di Daniele, perché è forte, solo che c'ha troppi acuti, no, non sento i bassi. Ma diciamo che anche lui come lo porta, dai, via, e allegria, tutti e tre, vai! Guarda che Salvatore c'ha dei baracchini belli, mi sa quello tuo. Come passa tutto? Allucinato, non fare il medio. Eppure c'è quell'altro bello mio. senti a Salvatore, pure c'è, Salvatore sotto già due, 248 che gli ho dato io, quello tu, quello che io ho dato a te, che tu l'hai ritornato e ho dato a lui, che era bellissimo, ma bello veramente. E un altro bello ancora che gliel'ho dato io, eppure niente, sono andato, ci ho parlato io, ho fatto il trattore giù e ha tutta un'altra musica. Parla lui e le ripete, Daniele parla molto veloce, molto in fretta, capito? Con questi apparati bisogna parlarci molto lento. Come parli tu, Massimiliano, hai visto? Quando parli piano, con la calma, ci parli calmo sopra nel microfono, parli, la modulazione è sempre più bella, invece quando parli molto veloce come fa Daniele, si accavalla tutto quanto e si capisce di meno. Scusate, però vi dico una cosa, aspetta una lancia a favore di Daniele, perché al contrario dei modulatori puro sangue, che siete, cioè, siete talmente alte, talmente potenti, che poi alla fine la modulazione è talmente simile che vi si confonde. Daniele ha una sua peculiarità, una sua, come si dice, impronta, per cui lo riconosci subito. Quello che per voi è difetto, per me è un pregio. È positivo, positivo. Però... diciamo che la modalità deve essere un po' diversa, capito? Arrivo subito. Aspetta, come gira? Vai, vai. Un po' diversa, capito? Quando mi chiedi se sono state presenti, perché tanto oggi la puoi cambiare a lui la voce, capito? Assoluta, forse è quella, e quella rimane tua figlia, barra agricola, Salvatore, barra agricola, quando te poterai sentito, eppure c'ha baracchini come quelli che c'ha Claudio, preciso, baracchini con doppio modulatore, eppure nel modo che parla lui, nel modo che tocca i tasti, che regola la radio, pure, capito, Arturo? Ma non so, come detto una cosa, che questo qua che sta, adesso non mi ricordo il nome, un pochettino come modulazione è forte come quella di Claudio. Sì, è fatto in quel modo quell'apparato lì, capito? È fatto in quel modo, è fatto nello stesso modo, Anto. La mano diversa, ma è fatto in quel modo lì. E quello di Vittorio, per esempio, Vittorio Braccio di Ferro, l'ha fatto Benedetto, il barattino, l'ha fatto Benedetto. Io quelli di Benedetto, quanto in molti che ce l'hanno, le conosco subito, le conosco al volo. Perché le conosco al volo? Perché quando rotti che molla il pippi, suona leggermente il pippi. Poi c'è questo... il pippi. Fruscio in mezzo quando parla, c'è questa cosa che gli mette questa specie di cose da amplificare più la voce, non so che cosa, però invece la gira peggiora. E più si sente questa cosa, invece di fare l'effetto dell'elicottero, l'eco non lo fa, lo fa diverso, hai capito? E si conosce per quel motivo lì. Antonio, scusa un attimino, Antonio, comunque la tua amplificazione a volte è tenita sull'amplificazione stessa? In che senso? Non ti ho seguito, hai parlato troppo veloce. No, che a volte fa zani. La mia è nasale? No, più antale. Più antale? Più antale ce la fai? Ecco, adesso con la bocca, la che mi brutti, no? Scusami Daniele, io ti ho sgamato in piedi, tu che fate che fai? Daniele, riprendi. Ehi, buona cura, mi ascolti, buona cura. Dimmi tutto, ti ascolto, avanti. Non parla, c'hai per caso? Cosa c'ho là? Cosa ce l'hai, panda? Ehi, la panda che ti ha trombiato, la panda bianca c'ho, sì. Bianca o celeste? La panda bianca o celeste? Bianca. Cava, ega. No, perché non avevo sempre una celestina, con la turbo non c'è una attaccata. Il colore dell'antenna è celestino, la panda è bianca, sono io quello. Cosa ho fatto? Ma la Kirchi la vuoi? Come? Dico, se la vuoi la panificio Kirchi. Ehi, lavoro lì proprio, sì, Anto, ti ammazzo. Sì, lavoro lì. Tanto, tutte le voci di quello di tirare un paio non ti ho mai visto. Poi, a quel benzina alla principale tua, gli ho detto, beh, non so, ce l'ha sempre attaccato così. E io non sono uno con tu, esatto, e però non mi vedo ogni mattina, ma sei sempre in zona. Oia, me la lavoro di lì, sono un collega di Antonio, quello che viene sempre. Ah, così, andiamo bene. Quanto è piccolo il mondo? Positivo, no, ce l'ho detto, sta male che lui, sta male che lui, l'altra volta mi ha detto, sta bene, non lo chiedo, io stesso stavo in salita dall'altra parte. E tu 2 più 2 fa 4, allora, quando rientro dalle ferie, se ci passo, vengo a salutarti. Allora, dovrebbe essere il giorno che io stavo partendo, entrando a casa, tu eri dall'altra parte, diciamo nella camionale, se non sbaglio. Positivo, positivo. Perfetto, sono io. Ecco, la modulazione è bene, ma abbastanza comprensibile, secondo te? Guarda, positivo è Roger, positivo, pulita con lo scalo, sto transitando, Bibbia Santa Maria qua. Perfetto, va benissimo, d'accordo. E niente, Antonio, cosa c'hai oggi? No, non lo so cosa c'hai tu, non lo so perché ti stai esprimendo così, vabbè. Ma io come ti sto arrivando, Daniele, non sono solito chiedere controlli, però... vabbè, gli devo dire queste cose, se no poi si avvino. Però avendo cambiato, avendo fatto delle migliorie all'apparato, volevo sapere come sto uscendo, Già lo sai, positivo è Roger. Qua transitando davanti allo Shannon, nel tuo 3-1, sì, segnale 9, è radio 5, pulito, pulito. Comunque io sono più forte come segnale confronto Antonio. Pari, la tua radio è leggermente più forte, mi sta arrivando. Hai visto tu? Poche meno le ho migliorie. Semplice andando. Daniele, bravo. Sto facendo una bravo, Claudia, sto facendo una bravo. Da bravo, sono in ferie, cosa vuoi di più? Ma non è dire che siamo a lavoro. No, nel fatto della radio, quella di Antonello è molto forte, ma sono due tonalità completamente diverse. Ascolta un attimo, chi sei io o Claudio? Oia, lì alla stazione puro sangue, Radio Sassari, torre di controllo, la NASA di Sassari, non gli si può dire niente, non continuate perché sempre lì è tutto rogero. Ma guarda bene l'apparato mentre io... non lo farete, ma lo farete, di una volta, prendete il numero e poi mi dite quanti enti ne volete. Guarda, se ti attacco l'altra radio, Antonio, se tu te la crepola qua, non te la pago, Vabbè, tu, ma quando dici mia, tu la fai, sì. Io spengo, non ce n'è problema. Quindi è tempo di commutare e di accendere la tuffa. Tieni conto questo segnale però, sentirai un po' di vento, le accese, ma non ti preoccupare. Ma ora sarò tutto. No, adesso rimani, senti Luigi, che ti faccio sentire il vero segnale della torre di controllo. Ti dico solo che ieri a Primocetto si è spaventato di notte, 9:10 sono arrivato a Brutuso, ti ho detto tutto. E ascolta, non è che il 68 me lo bruci, no? Se c'è una bella distanza. No, è che sicuramente lo Smith ti si incolla e non l'ha detto prendere la curva per staccarsi. Dammi 2 secondi. Ma 2 secondi solo, perché tu immaginati che tu sei venuto qua ed è per terra. Ti ho messo per terra perché non ci sta neanche nella scrivania. Aspetta che commuto. Rimane dietro, attenzione! Oh, Daniele, Daniele, guarda un attimino come arrivo, ora io sto spaccando tutto. Seriale 9, sono a Sardoso, 9, preciso. Tanto, ricetto, non è così sento molto pulita, come modulazione. Però sento nasale. Sì, no. Spostati che sto passando, spostati. Cosa stiamo facendo? Mi aspetta, è abbasso. Dove sei? stiamo partendo nel vento, dammi 5 minuti perché questo deve avere il tempo di scaldare. 2 secondi. No, io metti il fuoco che fai prima. E cosa vuol dire fare? Avanti! Buonasera ragazzi, siete tre, me ne ha ascoltato. E chi sei? Buonasera. Quanti anni devo smettermi, Antonio? Il rumore che senti sotto la vento, quanti anni devo smettere? Traverso ha aumentato leggermente, ma non più di tanto però. Adesso ti spiego, ce l'hai presente, tanto tu ce l'hai il libro, non lo stesso. 9 più 30, però la verità, quando era fissi, arrivava dopo il 30, qui non ci arrivi, non lo supera il 30. Cioè adesso non è sulla scala, aiuto. Daniele, dove sei tu? A Santoso, se arrivano 9 di 9 e 20 oscillanti, Claudia. Sono fermo a Santoso, mi piace la raggio che c'è la Vespa. Fatelo conto. E l'altro quando è salito, Grode, mi avevi dato 9 più 20 così, Dove, adesso sei 9 e 30, però si sente che non sei caldo, Non è caldo, vero? Non lo so. Facciamo scaldare, vedere. E quel rumore lo senti di me o non lo senti per niente adesso? No, già si sente il rumore, sembra un rumore di relè, però è molto basso, dai. No, vabbè, il rumore del relè quando si è importante, ma il rumore di quello vento lo senti sempre? Sì, della vibrazione c'è sempre, ma molto molto basso, rispetto a ieri è quasi nulla. No, io lo sento, è abbastanza. No, ma niente è quello. È solo una ventola che c'è in più quando schiacci la portante che entra in funzione. Non è un problema quello, l'importante è che ci sia la modulazione. Gigino Montale, come ti sto arrivando a te lì? No, ma data forte. Siccome qua c'è talmente piccolo cose, poi buia la camera. E non c'ho gli occhiali a portata di mano, non riesco a vedere la lancetta, capito, Claudio? Però si sente questa ventola, si sente maledizione, sente parecchio pure. Gigi, sei spostato, sei a 27.077? No, 76, non esagerare, 76. È un altro passaggio. 76, metti a 76. Cambiato qualcosa? Anche qua sono spostato, mi ricordi, anche da lui sono spostato, è a 76. Non lo so. Guarda lo smittere, Grote. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Massimo accordo. I due sopra comunque, Gigi, non uno, due. Ah, lascialo stare, Gigi, dimmi come qualche segnale. Io qua, dai, se tu mi confermi che sono stata di due, è questa radio qua che c'è qualche problemino. Claudio, dagli conferma, questo lo smitter è inchiodato e si sente che sei salito il segnale ma non si muove. No, io qua non sento male, non ci sono problemi. Non ci sono problemi, non ci sono problemi. È inutile che le confondete le Luigi. Allora Antonio, come primo esce a 30 antesse? Adesso è aumentato, è arrivato, sta toccando il 3 là, l'indicatore, sul 3, al centro del 3. Come si dice, controlli fasulli, chiedo conferma a Antonello Barracuda sulla frequenza di Gigi Vulcano, vieni avanti Gigi. Sì, io il caparrocero, Antonio, vedi un po' di quanto, guarda il sequenzio del rotturo di quanto sono spostato. Allora, adesso sei, no, Santiago 9, radio 5, Santiago 9, radio 5, anche tu leggermente rumore di sottofondo ce l'hai, è molto leggero, la verità, però è aumentato un bel po' adesso. Io ti sento io lo vedo spostato, scusatemi, però allora il problema è mio, io lo vedo a 27.077. E probabilmente questa cosa qua, questa radio, aspetta una cosa, Antonio, guarda se sposta qualcosa così, se torna indietro o avanti, cosa è successo facendo così? Adesso hai superato il 9, adesso intanto penso che presente come il Midland, non lo Smith del Midland, 68-44, sono uguali, adesso hai superato il 9. No, io stavo dicendo, se era portato in frequenza, cosa fate di che ho girato questa leva, cosa è successo? Assolutamente, più potente di prima, sì, la verità. Se è più forte di prima, è sempre, sempre comprensibile, la radio pulita pulita, senza nessun intoppo. Secondo me è un, come si dice, allora ho problemi io. Ho problemi io perché io lo vedo. Lo vedo spostato di due. No, adesso facendo una controllando questo impianto. È così, Antonello, la usci. È spostato, com'è? Di me ha cambiato così, è più bassa. Assolutamente no, sempre lì, sempre uguale al primo passaggio. Questo è il secondo passaggio, il primo passaggio è sempre uguale. E questo è sempre uguale all'altro, è sempre la stessa cosa allora. No, adesso leggermente ha diminuito il segnale, leggermente. Così a centro banda, così, così sempre spostato è Antonio Grotte. No, no, io ti sento spostato di 2 kHz. KK, non è il problema della radio, dai. Guarda, io non vorrei dire, però ti sento perfetto a 27.077, dopodiché ti sento anche a 78, però inizi a scemare, e nella stessa condizione come ti sento adesso ti sento a 0.79. Ah, yoga. Claudio, può essere, Claudio, può essere qualcosa in questa radio qua, può essere. Come, se, come l'hanno toccata e spostata, può essere anche Claudio, non questo sto modulando adesso, quello sto modulando prima. Cioè, non voglio prendere nessuno, da 75 a 77, non so, due Hz, sono 200 kHz, o Antonio Grotte. No, ma scusa, sì, hai ragione, a prescindere da questo, se vuoi ti faccio una telefonata e ti faccio sentire come arriva qua. Ma sono tanti, capito? Sono tanti 200, non è poco. Qua io guarda, lo sto ricevendo per grande. Perfetto, perfetto. Allora, guarda tu, com'è questa torre di controllo? Si intende se o no? Un gruppo S. Senti il topo dalla trave come ne scende da solo, mi capito? La radio è variata e ho sempre bella. Sempre bella, non è cambiata di niente la verità, proprio da parte mia nulla, sempre uguale, più potente però, senza distorcere di una virgola. Ma quante candele ha? Questo è poche ne ha candele, 600 solo per il momento. Possiamo aumentare ancora, ma mi fermo qua, perché altrimenti davvero quello Smith si inchioda. Se sono già sul 3, metto a 3, a Ossi, un altro giro di chiave e si inchioda sulla 0, poi tocca a prendere la colpi. No, rimane così. Digi. Dimmi, Ato. Vieni avanti di nuovo, scusami un attimino che ho toccato una cosa adesso nel baracchino, nell'apparato, vieni avanti. No, non toccare nulla, Ato. Non toccare niente, lascialo com'era, lascia tutto com'era, non toccare nulla. Perdonami, perché può essere un problema mio, dammi di nuovo lo stesso segnale di prima e ti dico un attimino se ti sento di nuovo spostato, perché ho toccato una cosa e voglio vedere, magari ho sbagliato io. No, mi è venuto il dubbio che non hai sbagliato niente, dai. Mi è venuto quel dubbio, te la provo nuovamente, però mi è venuto il dubbio a me che no, che c'è qualcosa in quella radio lì. Vai, prova. Prova a me, vedete un po'. Ma perché sei tutto occupato? Cosa è educato? sentire se mettendolo al minimo lui lo sento diverso. Oh, guarda tu, guarda, è quella di prima, questa qua, è quella di prima. No, negativo. Ti sento sempre spostato di 200 kHz. Può essere questa, dai, Claudio, può essere questa radio qua, dai. Il problema lo fa in quello di Luca, in quello di Sandro di Porto Torres e lo sta facendo anche quello di Antonio. Sono tutte le radio più o meno uguali, se non sbaglio, quasi, credo, quasi simili, diciamo quasi simili. E vuol dire che il problema, Claudio, c'era questo qua, qualcosa di spostato qua ci deve essere, Claudio. Gigi. Ehi, dimmi. Adesso con questa prova che stai facendo, sottofondo c'hai un ronzio strano da parte mia, eh? Può curarsi pure che sia questo ronzio, se non è la radio, la televisione che è accesa, non lo so. Prima non ce l'avevi negli altri passaggi precedenti, adesso com'è diminuito, c'hai un ronzio di sottofondo, abbastanza accentuato. Guarda, c'è ancora questo ronzio, c'è ancora, o ne ho un aperto. C'è sempre. No, qua stai arrivando proprio male, male, male. Prova, possiamo fare una prova adesso, non per esagerare. Prova a passare un attimino in FM. FM, dove è? Come la c'è la luce qua? Se ne ha FM questa qua. Almeno lo so, adesso non lo vedo al buio. Se ne ha FM. Non so se c'è la FM questa qua. Oh, io non c'ho molto lo smitter. Non sto facendo una cosa per non disturbare, perché aspetta, c'è la poi non mi preoccupare, non è mia, non so, di un altro, di un amico questa radio, dai. No, non è mia, se è stata la mia l'avrei portata da Roberto, non attaccare lo strumento, l'avrei fatta controllare, ma non è mia. Oh, domanda. Claudio, ma te lo vuol dire con la storia cos'è, a transistor o la valvolare? Questa valvola è quello grande grande che hai visto tu della Yaish. Sto dicendo, domanda, come mai io lo ascolto bene in tutti i miei keyboard, compresi anche i barracchini, e voi invece le date sempre questo scarto? Risposta. Allora io ti dico una cosa, adesso più sta scaldando lui e più lo vedo spostato, addirittura è 27.078 adesso, e se vuoi ti faccio anche una telefonata e vedi un attimino una cosa, non so se sia riflesso l'antenna o cosa, perché è possibile che io ho palazzi a fianco, però con l'altro apparato lo sento perfetto, con questo lo sento così. Aspetta a vedere da Luca quanto aumenta. che porta un passaggio. Guarda, si arriva al 4, si arriva al 40. Oh, se ci vuole poco, va bene. Quando tu carina vuol dire che questo è quello che loro non conoscono, l'amplificatore, che tu sì, però. Ma sì, positivo. Ma che cazzo ha toccato questo apparecchio? Si può lasciare acceso qua, non vorrei che entrasse qualcuno qua, perché l'ha toccato. Comunque ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Luigi, Massimiliano e Antonello, se non erro. Avanti, cari, venite a girare, eh? Guarda, questo è l'ultimo passaggio solo, dai. Questo è l'ultimo passaggio solo, che ho commesso la tutta la birra. Guarda bene, se finché sono sempre positivo che sei superato il 40. Guarda, sì, 9 e 40, a picchi positivi. Quindi, come finché tempi? Ce n'è, ce n'è. Sai che è un casino, eh? Te l'ho detto, carina, altrimenti quando vado a mio amico Franco, eravamo vicini, tu immagini dove sono adesso, e arrivano le 9.40. Io penso che anche quelli vicini a te ti rimano così. E via, non si può competere, caro, lo fa. Lasciatelo in pace, non stuzzicato perché è puro casino, Poi l'ho provato ma non è andata male. Io e altre persone. Prego, avanti, Antonio, riprendi. Scusami, non so cosa è successo, ci siamo sovramodulati. Riprendi un attimino perché non ho copiato il tuo passaggio. Ho detto, non stuzzicate a Claudio, perché non ce l'ha fatte. Non ce l'ha fatta. L'unico che ce la può fare è ciao Walter, ma ci siamo mandati tutti e due, non ce la fa nessuno, l'altro che ci ripresenta, l'ho sempre detto, anche quando non c'era lui. Non fa, adesso ho provato a rompergli le palle, ma non sono riuscito. Oh Luca, perché io non sono. Che cosa? Ehi, confronta Claudio, non dirmi che anche il mio segnale è basso. No, te lo dico, fare proprio gli amplificatori, lasciate perdere. È un esagerare, dai. Antonio, ascolta. È un esagerare. Ma parlo io. Non vedi che c'è avuto già, sono arrivato così. Ma guarda che cosa mi cazzo a operare. Ti ho un po' di fare da di turbarlo. E via, siamo un parolo di gatti al forno, e comunque, Antonio. Guarda se c'è anch'io il picchi positivo dopo la mia modulazione. Negativo, aspetta un attimino che forse ho... Prova un attimino adesso. Antonio, attacca questo lineare che c'hai, a vedere, dai. Attaccato. Attaccato, e parla a vedere. 1, 2, 3, 9. Ma questa torre di controllo, cosa può fare questi qua? Che c'è? Vulcano, ma che hai sentito tu? No, non ho visto, c'è la ciampetta. Tu, che diavolo, hai sul segnale su tutto. Capito, Claudio? E beh, niente, se tu c'è un lineare grosso, quello c'è un lineare piccolo, cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? No, non può passare, no. Esagerato, perché adesso il resto è spento, cambia qualcosa Gigi. Allora, non è sapere, non è facile collegarlo, bisogna saperlo giostrare, ecco. E caso non sa giostrare, non sa come mettere le mani. Certo, se lo mettevano a me farò molto danno sicuramente. Lui se lo mette le mani sa cosa fare, sa quanti fate darle, non è facile. Io ci ho provato una volta con un amplificatore. Quanto famoso, ti ricordi lui mi avevi interessato? Ma sono una vita brutta con l'amplificatore perché ho visto qualcosa di strano. Adesso scocca una cosa qua, guai, la faccio dare veramente. La valvola. Cioè, provata di tu guarda, non sono riuscito. Provata qua intorno ai 200 watt, se non sbaglio. Vuoi provare? Sì. Scusate un attimo. Stiamo facendo, questo qua però non è QSO da canale 10. ci stiamo lasciando andare, stiamo scivolando un attimino. Scivolare non ce ne vuole, tanto, e deve fare il rodaggio a scuola. Deve fare il rodaggio, che ce ne vuole scivolare noi. No, non è quella, perché io credo che possiamo dare qualcosa in più, invece stiamo finendo a controlli. A proposito, Luca, come ti sta uscendo? Facciamo benissimo. Sì, sì, facciamo una grande, si sente che è una 60. Cos'è quello? Non si sente che è una 60, boh. No, questa è una 60, boh. No, negativo, questo è l'MB più 5 modificato, dove ho messo una resistenza e ho fatto un ponte, no? Io Mugino non te ne dicomi. Lo senti, ho tolto la batteria, ho messo la resistenza ed è fatto. Oh, allora sono prove stavamo facendo. No, ma è giusto perché stavamo. Il canale 10 è il canale 10. E vabbè, ma se dobbiamo scaziare lo facciamo lo stesso, perché dobbiamo essere sempre distretti, no? Quindi quando c'è il tanto per poter fare un po' di prove, di manovre, le facciamo. Mi stavi proprio un carro ai piedi, mamma mia, allora tu immaginati, Antonè, io in questo momento sto andando con una Lafayette HB23, ci sei? Lafayette HB23, sto prepilotando, prepilotando, stai attento alle parole, prepilotando, con un 747, un lineare che ha un ingresso da 100 watt HF, ok? Quindi praticamente cosa sto facendo io? Sto dando l'input di 4 watt a un lineare topico, il lineare topico sta uscendo con 95 watt e sta pilotando quello grande che ha purtroppo 100 watt di ingresso, che automaticamente con 5 valvole sta erogando 600 watt. Ma che giro strano, io non ci ho mai pensato che si poteva collegare due allineari insieme, in parallelo. Antone, non me lo faccio vedere perché non lo faccio vedere a nessuno, però se vedete cosa ho collegato io, si mettono i capelli dritti, però non lo faccio vedere a nessuno. Si può collegare tutto, Antone, però devi stare molto attento con le valvole. Questo non è transistorizzato, questo c'ha 5 valvole più una, 6 valvole. Grosse quanto una bottiglia di birra, ok? In AM diciamo che lavora così, 600-650 watt. In banda laterale sono oltre il kilowatt, che però lo piloti normalmente perché le radio HF le danno 100 watt di input. Invece col baracchino non lo devi portare perché se le dai 4 watt manco si muove. Allora bisogna collegarle un lineare topico in parallelo. Bisogna saperlo fare però, e avere questo tipo di modulazione, cioè deve essere talmente tarato tutto, è talmente fatta veramente una centratura stabile, che devi ottenere questa modulazione però, non è che devi ottenere la modulazione tutta satura, no? Allora va bene. Tarato, bella scusa, non credevo, si vede che sono ignorante in materia. No, non credevo che bisognava fare tutti questi passaggi, vabbè. Come ho detto, imparo qualcosa di nuovo. Vediamo un po', tanto oggi che stiamo scattiando. Adesso Gigi, tu che sei un pochettino più lontano degli altri, sono molto più basso adesso come modulazione, vero? Come radio. Scusate un attimo. Scusate, QRX per me un attimino. Eia. Gigi, com'è la mia modulazione in questo momento? Diversa da quanto da prima? No, mi sembra sempre uguale, suona, suonami bene a qua ottava e adesso ripeto, io ho un baracchino che sto uscendo con 4 watt, prenditi conto, sto uscendo con 4 watt io, come ti sto arrivando io la radio, ancora tu immagini come mi arrivi tu, io sto uscendo con solo 4 watt. E anche in questo momento, Santiago Radio 5, così, adesso guarda se in questo momento cambia qualcosa. Sì, la radio cambia, è appena appena di segnale, la sale. E non è piccolino, non so, pare se fa un 30 watt, boh, Claudio lo sa di più, non so se tu ce l'hai presente, la 1230 che c'è scritto Winner, quanto può mandare questa storia? Lavora in AM e in SSB. Quello è 35 watt in AM, 75, 70 in SSB. Allora, 35 watt, allora ho capito, è piccolino, niente di particolare. Invece il 747 lavora in quanto? Il 747 di quelli piccoli è il migliore in assoluto. Avendo lo stadio finale MOSFET ti garantisce la pulizia veramente del preaccordo con questi lavori così fatti e quindi fa lavora molto bene. È un linearetino piccolo che ero verso i 90 watt, ho provato a wattmetro della Magnum, io ho un grande wattmetro grandissimo che ho preso dalla Magnum e Carlo Titano e poi quello della MFJ e tutti e due essendo professionali segna proprio bene intorno agli 85-86 watt diciamo, dai. Poi col picco di modulazione sale a 90 watt, capito? 90 watt, tutto qua. Ok Luca, riprendi. Poi il poliziotto è venuto per andare agli esami del rianimatore quando la prima volta ho accompagnato Franco Canifo e a Franco Velta. Ed è passato alla prima, proprio la prima volta. E abbiamo visto questa Seat Toledo, mi sembra che ci avesse, una Seat comunque era, una macchina della Seat. Monovolume, ho questo antennone, e tu a Pulici mi sono venuti a dare esame. Si è presentato, ci ha detto chi era, e sai Franco, curioso nome, dice come stai usando qui, allora ha fatto vedere, ha sollevato il sedile di dietro, perché c'era sotto il sedile, non il cofano, il sedile di dietro che c'era un vano, un fosso, praticamente ci aveva il 1200, sì, è lui, un Toledo, una Seat, comunque monovolume grigia, ed è un agente di pubblica sicurezza di nuovo, cicciottello, un po' tarchiato, un po', insomma, non molto alto, ma un po' cicciottello. Positivo, Claudio, positivo, sì, sì, sì, è lui, Francesco, si chiama Francesco di nome, è lui, è della la Seatta, è della sottosidile con l'altra, e si apre il cofano, certo, per quanto l'altra applicazione che ha tempale. Sì, e poi andate a fatto giusto, è vero, ha fatto il coso del radiamatore, infatti da quando è passato il radiamatore, l'apparato l'ha tolto, aveva, perché è napoletano lui, napoletano, certo, gliel'avamo fatto a Napoli, quella macchina, gliel'avamo fatto a Napoli, gliel'ha fatto questo, il Pantera, Angelo Amato, una cosa che si chiama, c'è anche il numero del telefono di quello lì. E poi quando è passato il radiamatore, quel lineare e cosa, l'aveva lasciato Albino a cercare di prenderlo, Albino quello che c'è lì a Porvera, che conosci tu, poi lo volevano vendere a Birillo, io a Birillo non gliel'ho fatto prendere, perché tanto ci mancava parecchia roba, perché tu non se ne faceva nulla, perché c'era tutta tutta l'altra roba che aveva lui nel cofano, che era tutto collegato assieme. Se non tu collegavi tutta quella roba lì, non andava mai quel lineare, non poteva andare, se tu devi utilizzare il lineare solo, ci aveva tutto l'accompagnamento e quella roba per farlo funzionare, se no non andava. Infatti non gliel'ho fatto prendere io, perché non volevo fare roba di 600 euro in quel lineare lì. E niente, il 48 modificato che già aveva, che era per lo stesso, il 48 l'ha dato a uno di Ottana, un certo attore, c'era attore di Ottana, questo, lui non tratta solamente di fare radiamatore, che adesso è andato, non c'è più qua in Sardegna, ancora, è tornato in zona di Napoli, sta facendo servizio in zona di Napoli. Ho capito, vabbè, però praticamente avevano una bella storia, veramente una bella storia. Va bene, Antonio, quindi fai girare, vai. E io niente di particolare, no, mi stavo solo ascoltando, va, mettendo un po' le idee in chiaro. Adesso vediamo quando mi impara quella storia lì a vedere se cambia qualcosa, se migliora un po' la modulazione, non vedo l'ora che me lo sistemi, porca miseria. Speriamo che questa settimana sia fortunato. Non sarai fortunato. Sarai sicuramente fortunato. Pesce Maria Gara. C'è un sorvemento allucinante 9. E uscio proprio da, che mi sta scaldando anche con la so. Adesso spegniamo qua e attacchiamo l'altro. Antonio Brode non c'è più. Antonio Brode, dove sei? Sei andato a mangiarti la fetta della anguria? No, è sparito del tutto. Ma tanto è una curiosità, ma durante la tua modulazione normale c'è liscio, tranquillo, liscio, gasato o ferrarelle? No, così è inserito. Quando senti il numero dell'avvento è inserito. Siamo però a metà corsa, ecco perché i picchi non ti di più. Poi c'è più sangue e poi si stabilizza, non si muove più. E si ferma a 30. Capito? Va bene, d'accordo. Non lo usi mai, però è raro che lo usi, vero? No, ho cambiato di posto. Se ti ricordi è quello grande che c'era in fondo a sinistra, vicino alla porta proprio all'inizio, della prima base dove ci sono tutti gli HF, quello grande mi ricordi. Comunque fatto sta, le valvolette dovrebbero costare un po' di cash, è vero? Queste costano 42 euro l'una, 42 euro l'una le valvole, però vabbè io ne ho 5 di scorta, però non si trovano, proprio me le avevate fusaro, proprio la mano è Vittorio. Le avevo telefonato, vediamo tutti ci conosciamo, siamo amici di famiglia. E quindi mi ha detto, guarda, non ce li ho qua, però già te le procuro, infatti mi ha chiamato, già mi ha detto, guarda, guarda che ti ho procurato quelle parole che mi hai detto, le lascio a Giovanna, che è la sorella, signora Giovanna, perché io sto partendo, e quindi te le lascio. Infatti ho detto, dimmi cosa devo pagare, mi ha detto, ma è la Giovanna, fatele dare, fregate. E infatti me le ho regalate, la verità, ne ho 5 di scorta, quindi 5x4, 20 più di 200 euro di valore me le ho regalate. E non se ne trovano più di quei modelli lì, è possibile? No, questo è il primo modello che ha fatto la IAESO, quindi è difficile che si trovi, ma è una bella storia, Luca già la conosce, l'ha visto anche in funzione, tu l'hai visto spento, qualche giorno viene qua, te lo faccio vedere acceso. Come viaggio Grote, ci sei, Antonio Grote? No, è sparito, però tu mi ha accusato di spegnerlo. Io ho sentito un esempio stupido, no? Chi ha le radiovalvole e diciamo le valvole non si trovano più, c'è una modifica per sostituirle con dei transistor, diciamo continua a funzionare ugualmente ma senza valvole, pur nascendolo con le valvole, o sbaglio? Ogni valvole c'ha il trasformatore, c'ha tutta la sezione della modica che serve per far sì che la valvola carichi la tensione e poi la butti fuori, quindi per quello che sappiamo io non si può modificare un lineare a valvole e farlo a transistor. Forse un lineare a transistor si può fare a valvole preferibilmente il trasformatore, ma costerebbe una barca di soldi farle tutto il circuito stampato per il carico delle valvole e tutte le cose che ci vogliono. Ti hanno detto fesserie, Luigi. Intanto viene, si fa coccolare, poi va dalla mamma, fa da Patrizia, un tentato fa il giro, la prende un po' di carezze, poi si stufa e ce ne va. Settimana scala piccata, sì. Sì, scala piccata, sempre di sabato. tutti insieme, almeno dai, lavoriamo anche lì alla fine. Dai, comunque il fatto sta che se c'è la richiesta da parte loro, che noi siamo presenti, diciamo, per tenere un po' sotto controllo la situazione, sì. Sì, sì, ho già parlato io con il direttore dell'ACI, non ci sono problemi. Ah, però tutto organizzato e ci vogliono alla fine, dai. Sì, sì, adesso faremo questa riunione e poi vediamo i gruppi, le cose, in modo che si possa presentare uno scritto ufficiale firmato da Antonio e poi aspettiamo la chiamata, ma c'è tempo comunque a metà, verso il 20-22 di ottobre, presso non ho visto il calendario, comunque pare che sia il penultimo sabato di ottobre. Perfetto, però speriamo che tu non lavori anche alla fine. No, beh, io quando sono queste cose non ci vado, non ho grandi problemi. Non ci vado e basta, ma prendo una giornata di ferie, se ho la reperibilità rimango reperibile, ma vengo anche io, non sono problemi, Antonio. D'accordo, Luca, ti devi anche attrezzare in macchina dell'apparato, sì. Gli apparati useremo quelli che poi ti dirò, che sono tutti portatili, tanto dal primo al terzo intermedio e da quello che stava a partenza c'è la base. Quindi chi sta giù alla partenza c'è il tavolino con la base, perché deve dare i tempi di partenza e i numeri delle macchine. Poi dal primo al terzo intermedio ci sono 100 metri neanche di differenza da uno all'altro, quindi ci sentiamo con delle apparecchiature particolari che ho io già qua a casa, che mi pare che hai già visto, no? No, la verità no, quelle no, comunque quelle che abbiamo noi per dire in macchina, quelle non vanno utilizzate. No, baracchine no, se ne usano, si usano radioserie, ho già preparato l'autorizzazione, sono quei portatili che hai visto qua, quelli tutti in fila. No, la verità no, non mi ricordo di averli visti, ma io credevo che, alcuni gruppi rimanevano in alcuni punti strategici, diciamo nella zona più pericolosa, tra virgolette, in modo da segnalare, sai, qualche incidente, qualche intoppo, in modo da tenere più presente la situazione durante la gara, e credevo che si usavano altri apparati, diciamo quelli che ognuno ha in macchina, invece è tutta un'altra cosa, ma tutto un altro lavoro diverso. L'impostazione c'è la volante e carattrizi, un'impostazione che si chiama intermedio. Ogni intermedio c'è a disposizione l'ambulanza e il carro attrezzi. Ogni intermedio è comandato, o per meglio dire, seguito dal commissario di percorso, che è quello che praticamente dirige la gara, e quello dà le indicazioni a tutti. Poi c'è il capo posto, che è quello che sta assieme a te, e in pratica tutte le uscite delle campagne, tutte bloccate, lì vanno situati gli intermedi, in modo che nessuno si sposti, devi stare attento anche alle persone che non entrano nel percorso, insomma è un lavoro molto, devi stare molto attento, un lavoro di precisione, ma soprattutto di molta molta attenzione, perché si può fare male qualcuno. Comunque poi quando faremo la riunione mi spiego tutto, e una volta che Antonio poi firmerà la richiesta di partecipazione e si ufficializza la cosa, poi vediamo come organizzarsi, dai, non c'è problema, Antonio. Perfetto, va bene, chi è venuto? Sono trovati uno degli ospiti di classe, lo taxi che sta andando via, vengo subito. Ciao, Claudio. Sì, chi è? Bin Laden, ma tu la posta elettronica non la guardi? Oh, io tu, ciao, buonasera. La posta elettronica non l'ho guardata oggi. Hai ragione, il computer non l'ho acceso per niente. Di solito lo accende mia figlia quando arrivo da lavoro. Ma c'era talmente caldo oggi che ho rinunciato anche a controllare la posta elettronica. Guarda che ti ho lasciato un messaggio nella posta elettronica. Fatti sentire, no? Ci mancherebbe altro, Antonio, ci mancherebbe altro, certo, vi faccio sentire e ti rispondo tranquillamente, non ci sono problemi, è tutto bene? Sì, tutto bene. Ti ho lasciato due numerini di telefono, sia di casa e del cellulare. Quando mi vuoi chiamare, mi chiami, non so a che ora sei a casa tu la sera, o se vieni a pranzo, via dicendo. Guarda, io di solito, se ho rientro, secondo quello che devo fare, che sono distante, rimango fuori, ma se ho rientro in zona, Sassari, arrivo all'una e mezza, alle due meno un quarto, e poi alle tre, tre e mezza riesco sino alle cinque, quindi dopo le cinque sono sempre attivo, non ci sono problemi a te. Vabbè, verso le 2 meno 20, meno un quarto, al limite mi telefoni, o mi puoi telefonare la sera dopo le 8 e mezza a casa. Se poi ti vuoi far sentire al telefonino, ti ho lasciato anche il numero di telefonino. Cos'hai, un team? No, Vodafone. Vodafone il telefonino e l'altro, vabbè, quello di casa già lo sai, no? È team. Telecom. Sì, sì, ho per quello di casa non ho problemi, intanto non pago io ai telefoni fissi. No, se Vodafone ti chiamo con l'altro. Vedo il 2, team e Vodafone, capito? E ti chiamo con quello Vodafone, era giusto per quello anche. Per il resto tutto ok, ti vedo un po' stanchino. Sì, oggi sono un po' stanchino, perché anche dopo pranzo l'ho accesa, ma non ero qua, Stavo ascoltando un'altra cosa. Ho dato una spazzolata per se ti sentivo, ma non c'eri su questo canale. E poi mi sono spostato di frequenza ed ero lì che stavo ascoltando. Dopo pranzo è difficile che mi trovi. Posso esserci dalle 5 in poi, dalle 6 in poi. C'è troppo caldo dopo pranzo, tu. C'è troppo caldo e poi. Di solito non c'è nessuno a quell'ora, oramai abbiamo ripreso un po' tutti a lavorare e quindi non c'è molto traffico. C'era il grotte, ma è un attimino di Guerrix, mi sa che si è addormentato, è arrivata gente. Antonio Grotte, ci sei? No, è in 144, è Antonio Grotte. No, di solito non fa questi scherzi lui. Non fa questi scherzi, no, mi ha detto un attimo di quel Rix, stavamo facendo le prove di segnali e di balle varie e si è allontanato nel frattempo, e si è allontanato, ma lui quando chiude avvisa, non è suo coso lì, capito? Quindi sicuramente c'è gente, è arrivata gente. Lo sta mangiando il gelato, il dolcetto, quindi non vuole essere disturbato, capito? Senz'altro non si vuole disturbato, no? Ma cosa fa? Lavora? Beh, certo lavora, anche lui lavora, tutti lavorano. Ai, tutti al lavoro. Guardi voi che lavorate, io sono qua che mi hai grato la panza. Davvero, mi matto, lo volevo dire, ma come non ci vai a ammazzare il tempo tutta la vita? Vuole passato, tutto il giorno, purtroppo la mattina me ne sto un'oretta da quell'amico, così un'ora e mezza, una chiacchieratina, poi faccio la solita camminata, poi arrivo a casa, vado a fare un po' di spesa, pranzo, e poi faccio la predichella, e poi la sera mi riesco di nuovo a passeggiare, poi al limite, se è il caso, me ne vado al mare tutto il giorno. Non ti invidio. Non ti invidio, tu. Già va bene. Io invece esco alle 6 e mezza la mattina, 7 meno un quarto. Solito macinamento di chilometri, urli, sedere, burti, aereo, martesi, se la chiaramonti, torna a salire. Oggi addirittura avevo i campioni, quindi ho fatto un po' di cose. Fatti vedere, ti devo chiedere qualche cosettina, ho fatti sentire domani al telefonino, vediamo un pochettino se c'è qualche novità in circolazione. Mi faccio, mi fa faccio sentire, non c'è problema. Sentivo staccando, mi ero accorto che ancora avevo il coso attaccato. Mi faccio sentire, non ti preoccupare. E così ci troviamo da qualche parte qua in zona e ci prendiamo qualcosa, ci facciamo una chiacchieratina, perché ho preso quell'antennino piccolo l'altro giorno e l'ho provato su una frequenza, visto che funziona abbastanza bene. Quello ho capito. Quello già funge, non ci sono problemi. Ho visto che già va per, anche per questa va e anche per un'altra, ma lo voglio provare a vedere un pochettino. E vabbè, ma cosa lo metti in macchina? Sì, l'altro ancora non è arrivato. Ma l'hai già ordinato? Sì, affermativo, penso che arrivi a settembre perché sono chiusi e poi mi sembra che cammini via con le poste dovrebbero portarlo. Ma arriva da te o da Vittorio? No, arriva da me, no, ho ordinato io direttamente a casa. Già va bene, è una bella radio quella, simile a 706. Sono grandi radio, sono dei quadriband, non sono ingombranti, funzionano bene, hanno anche bella potenza in tutte le frequenze, funzionano molto bene. Ottima scelta. Ma io l'ho visto da lui, ho visto che pompa di brutto, pompa e va bene, ho visto l'ascolto è abbastanza buono come ricezione e poi vediamo un pochettino di migliorare il tutto l'apparecchiatura. Beh, lascia perdere quello di Vittorio, se l'ha modificato, l'ha tirato un pochino. No, niente modifiche, nulla, non ha fatto niente Victor, nulla, niente, è normale ancora, Però dalla macchina, dalla mobile, come dice lui, esce un bel forte, anche troppo direi, io seguo, ovunque si sposta, lo sento sempre. No, te lo posso garantire che dietro, anche se c'ha quell'aggeggetto, non lo adopera neanche, vai tranquillo. Esce solo con quell'apparecchio e basta e quell'antenna che conosci benissimo tu. Lo so, però funziona bene. Funziona benissimo. Allora Antonio Grode mi ha attaccato la sera. Antonio? Spegni il telefono. Sì. Cosa ti ho detto? Lascialo fare. Scusa un attimino. Claudio, è giovane quello là. Vabbè, ma non mi puoi lasciare così, no? Adesso un attimo di guarisce e sei partito. E che ci vuoi fare? Lascialo fare. Poi qua chiamerà, no? E anche aspetta un attimino. Però mi mancano parecchi tutta quella clicca che era... Eravamo la notte chiacchierando fino a mezzanotte qualcosa su questo canale. Beh, in questi giorni c'è troppo caldo, intorno non fa la gente mai dopo cena, se ne c'è fa una passeggiatina o se ne sta al quadrato su, capito, al fresco. Però poco fa ce l'avevamo, c'è anche Antonello Barracuda da Rossi, che anche lui c'ha gente, si è allontanato un attimino per salutare. C'era Luigi Vulcano che ha fatto QRT poco fa, c'era Antonio Grode, c'era Luca, c'era di gente. No, io mi guarda, l'ho acceso perché domani mattina faccio un appuntamento su una questione e vedere un pochettino se riesco a, a ricevere. No, ho capito. E ti stai preparando, sì? Sì, sì, sì, ho preparato tutta l'apparecchiatura qua in sala. E per domani mattina me l'ha imposto già tutto quanto, poi domani mattina devo solo accendere e basta. Ho capito, ho capito. No, dico, ti stai preparando per avere l'esame, sì? No, adesso no, il prossimo mese inizio a darci sotto, per il prossimo anno però, eh. Non ci vai a ottobre? No, no, no, no. Una buccia giù si boccia all'aino a cavallo, di seguito. No, no, no, no, prossimo anno. Per quest'anno non apre di nada. Voglio vedere a ottobre quando lo danno gli altri, vedere quanto ne craccano. È una cosa un po' triste, eh? È una cosa un po' triste questa, non si riesce a capire il perché di sempre queste manovre. Non ho capito, comunque vedranno loro cosa vogliono fare, se vogliono incrementare o distruggere per sempre le telecomunicazioni. Facciamo loro, sono grandi e vaccinati, decideranno loro a chi darla e a chi non darla, poi ne parleremo in verticale, ne parleremo di questa questione. Perché sai, in radio c'è parecchia gente che ascolta, nominativi e via dicendo, no? Meglio non sorvolare su quella questione lì. Quando ci troveremo in verticale ne parleremo in verticale, Claudio. Io lo so, tanto. Lo sai che io non ho per la lingua quando parlo, quindi non mi interessa. Io sono un radioamatore come loro. E quando sono andato io c'erano a lavorare forte, poi alla fine cosa è successo? E gli altri facevano il compito bene, e quello che l'avevo fatto cattivo, perché era incrozzato, invertivano il compito e dove passava e tu rimani lì con quattro mani di rilascio, ma hanno sempre fatto quello che hanno voluto e tu lascio aperto. Lasciamoli fare così allora, scusate, io per quest'anno sorvolo, però il prossimo anno, per forza il prossimo anno devo passare, di brutto devo passare. Infatti, quando uno è deciso e basta, perché quando io sono andato, ero deciso, ho studiato e sono passato subito, però dico altri che erano in coppia con me, che conoscevo molto bene, che oggi fortunatamente sono anche loro allenatori eccetera, sicuri perché eravamo uno a fianco all'altro, se è passato il mio compito avevo pieno uno con l'altro, tu non puoi bocciarlo, capito? Non puoi bocciarlo, bocciato perché il compito suo è andato da un altro, punto e basta. Oggi sicuramente non si può più fare perché è tutto a cartelle, a quiz, quindi un esai è un esai, però hanno sempre fatto quello che hanno voluto, quindi niente di strano che anche questa volta sotto sotto ci sia qualche imbroglio, perché è impossibile. Su 23 bocciati, su 80 bocciati, su 12, quando ho accompagnato io, mi ho accompagnato 4 da Sassari, tutti e 4 Grimbaldi, uno solo promosso dalla sezione di quarto Sant'Elena, chissà perché, sempre quelli della sezione di quarto promuovono, quelli di Sassari mai, non ne passa manco uno. Eppure l'altra volta eravamo, allora, io e un altro della provincia di Sassari, uno è da Re di Nuoro, poi l'Asri, erano tutti della zona di loro, e li hanno crepati tutti, ci hanno crepato. Vabbè, vuol dire che il circuito era chiuso, ma quando, scusa, nel gruppo c'è uno che praticamente deve essere aiutato, stai pur certo che in una maniera o nell'altra già passa. Cosa vuoi ti dica, Cla? Te l'ho detto, io ormai ho preso quell'apparecchio là per forza lo devo passare, perché non è che l'abbia preso per gusto o per niente. Ormai ho deciso che devo andare lì e basta, io non ho speso insomma tutti quella questione lì, antenna, alimentatore, cavi e tutta quanta la roba, lo sai che costa questa roba, no? Non sono 200 euro, 200 euro, qua quando ti muovi con un'apparecchiatura del genere ci vogliono parecchi soldi. Cosicché ormai ho deciso che devo andare in quella questione e non me lo toglie nessuno. Ed ero contrario io, lì non ci andrò mai con questo, lo sai, bussa, non bussa per entrare, tutte quante le regole che c'erano prima. E invece poi, sai, mi ha attirato un po' quella persona, mi ha detto dai, vieni, te lo prendi, studi, ti do una mano. È una persona che si presta benissimo, guarda, non posso dire niente, guarda, a me mi tratta come fossi fratello, guarda, no, io con lui non ho nessun problema, mi dà qualsiasi spiegazione, a volte quando gli chiedo qualche cosa, no? Problemi con lui non ne ho proprio per niente. Ormai mi ha convinto di prendermelo, me lo voglio prendere, no, non c'è Cristo che tenga, guarda. Come fate tu? Quando uno sa di sé e ha la voglia di fare una cosa deve fare, perché io in quell'anno avevo deciso, ti immagini, io stavo rientrando da un corso di aggiornamento, ero fuori e la mattina alle 8 dovevo essere a Cagliari. E mi ricordo che come ho sbarcato dalla nave alle 7 a Polotore, sono arrivato subito a Sassari, che erano già le 7 e mezza. E c'era la buona Mettovellai che mi stava aspettando, siamo partiti alle 8 alle 8, ma sto dicendo molto prima alle 8, subito manco la parte mi sa, siamo arrivati infatti che erano già tutti seduti, perché alle 8 dovevamo essere già lì e noi siamo partiti con l'argenta di Tovellai a mille, abbiamo fatto quella strada, capite? A mille, mi ricordo, in via Simetto. Siamo andati ed erano già tutti seduti, avevano già fatto anche l'appello, non so, ma allora era così. Ed erano più di 100 persone, c'erano tutte e due le sale, quelle grandi occupate. E sono arrivato in ritardo, però era talmente la voglia di farlo, di completare questa cosa, anche perché ero nell'occhio del ciclone, perché io non ho mai avuto, sinceramente, sto modulando adesso con i baracchini del radioamatore, mentre prima quando ero pirata non ho usato mai un baracchino, ed è la pura verità, non è che me ne vergogno a dirlo. Oggi che ho tutto uso i baracchini, perché mi piace usare i baracchini 27, prima non li usavo mai, e quindi era talmente la voglia di farlo e perché avevo necessità di farlo, perché era così. E quindi sono andato con molta tranquillità e l'ho fatto, ma ero stanco morto, ti ripeto, avevo un viaggio in nave di quelli allucinanti, però sono andato perché l'ho fatto a maggio ed è capitato questa maestra là, la notte non ho dormito niente, quindi come sono arrivato a Polotore ho preso subito la macchina, sono salito a Sassa e ti ripeto c'era l'attore che stava aspettando, siamo arrivati che erano le 9 a Cagliari. L'ingresso era alle 8 e mezza, tutti già seduti, capito? Quindi ero mezz'ora in ritardo, però non è successo niente. Ecco. Hai registrato il break un attimino? Sì, anche quando sono andato alle 8 dovevamo essere tutti lì, ma cioè questa questione alle 8 uno anche deve partire, mica sta facendo un concorso, no? Lì non stai andando neanche a giocarti, però diciamo dammi il tempo di arrivare lì alle 8 e mezza, alle 9, non è che stai facendo un concorso, che per forza devi essere tassativo alle 8, questo non è un concorso, ma bensì stai pagando anche, pagando soldi per effettuare questo esame, mi devono, insomma, perché io ho telefonato, mi ha detto, vabbè, casomai lo aspettiamo, se arriva alle 8 e mezza, perché c'era il pulmino che andava a Panai, mi sembra che fa Sassari-Cagliari, e lui mi ha detto, va, io massimo posso arrivare lì 8 e mezza, almeno un quarto, non prima. perché ne portò anche altri di, che lavorano lì, però prima di quell'orario non posso essere a Cagliari, perché lui parte 6:30 da qua, 7:20 da Sassari, e mi ha detto io a quell'orario lì sono in quel posto. Vabbè, Claudio, io faccio entrare Black, Romeo 1 insieme a Claudio Sparviero, avanti Black. Claudio, mi hai sentito, mi hai ascoltato, Romeo 1 per la seconda volta, è un piacere assolutamente ascoltarti sulla 27, da questa parte Antonio Grotte. Un piccolo problema, Romeo, Claudio, forse non me ne darà atto, ma ti sento leggermente spostato, è possibile? Scusate un attimo, sono rientrato. Vi saluto, vi auguro buon notte a tutti, anche a Romeo 1 per la prima volta se si è ascoltato, Antonello Barracuda da Ossilandia. Ho fatto un attimo di bianco, c'erano degli ospiti che ci hanno salutato e sono partiti, sono pronti a partire per ritornare a casa a Lecce, e dunque giustamente un obbligo il saluto. Va bene, ci sentiamo domani, buonanotte e sognito a tutti. Ciao Antonè, un abbraccio grande, grazie di essere entrato in ruota stasera, abbiamo fatto un po' di tutto e va bene così, dai. Ciao, saluta la casa e ci sentiamo domani. Antonio Grotte, prende il microfono, ti ho anche telefonato, mi ha lasciato qua da solo, hai detto un attimo e si è andato a mangiarti l'anguria. Il pane di pagna, come si vuol dire. No, è stato un attimo prolungato perché non avevo fatto ancora carica batteria. Comunque ben sentito, ben ascoltato Antonio Barracuda, ci sentiamo alle prossime. Avanti Romeo 1 e perdonami per quello che mi è parso di sentire, forse sto sbagliando. Io volevo salutare Barracuda, mi sembra, io ho sentito, non ho capito molto bene il nominativo. Salzuri Antonello. Comunque non so se c'è il microfono un pochettino troppo preamplificato, perché diciamo che ti sento un po' fuori io, un po' fuori in sintonia. Non so se il microfono tuo che ti sta creando dei problemi, poi Claudio, non so, ti dà la conferma. Avanti Claudio. No, è così quel microfono, tra l'altro non si può neanche regolare perché è uno di quelli professionali, esce molto forte, esce molto bene. Non so se hai sentito cosa ti ha detto Antonio, sì, leggermente, sì, anche io ho notato con l'HF, sì, leggermente un pelino spostato, sì, al 075.00, cioè hai inserito, tu facci capire. Scusa, Romeo 1, sempre qua. E adesso bene va, o mi senti ancora troppo saturo? Perfetto, adesso va bene, aspetta un attimino, provassi anch'io, sia un pochettino leggermente forzato, adesso lo regolo appena, vediamo un po' se va bene questo sistema. Claudio, vedi un pochettino come stai ascoltando. È un po' passata la modulazione, ma io pensavo Antonio che stessi dicendo a Grotte la verità, perché a te non vedevo nessuna anomalia. Antonio, fortissimo come sempre, bello chiaro, forte, pensavo ce l'avesse con Antonio Grotte. Per me va bene, sì, però ti sento un po' impastato, ma è la classica modulazione di quel tipo di radio col microfono normale o Romeo 1. Avanti Antonio Grotte. Non lo so, se mi fa un altro passaggio, perché ho sentito che è migliorato, cioè da prima lo sentivo, forse era assurdo, però io lo sentivo addirittura su 27.078, forse sto sbagliando io, però se viene avanti un attimino, vediamo un attimino di capirci meglio. E affermativo, adesso che come sono avvicinato appena con la mano poco fa, l'ho ascoltato appena, comunque sono 270, 75 e 80 adesso, dai. Caparò, sai che cosa, perché siccome al pari tuo ne sentivo anche prima qualcun altro, con lo Sparviero era perfetta la cosa, quindi siccome questa radio gli stavamo facendo, gli abbiamo fatto delle migliorie un attimino, come mi ascolti realmente? E all'infuori del microfono il segnale va bene, però il microfono rimane un po' in saturazione. Ah, va bene, cosa lì si può fare qualcosa, nel senso che posso un attimino, guarda un attimo se ti sembra che stia migliorando. Ora, ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda se ho migliorato. Sì, adesso va bene, adesso ti sento bene, veramente bene. Vediamo un po', Claudio, come stai ascoltando? Sì, bene, ma non capisco perché ti dici punto 80, sono 20 Hz, molto importante, mettilo a punto 00, mettilo a 27.085, punto 00, poi le inserisci il lock, così non si muove più il WFO, perché 10 qui, 20 là, la modulazione gracchia, invece se è centrata proprio la frequenza giusta, la modulazione rimane bella limpida. Antonio, non ho detto non toccare niente perché vai bene così, capito? Non toccare niente, nulla di nulla. Riprova Romeo, vediamo un attimino. Ok, 27, 0, 75, 0, 0. Vedi che c'è una modulazione più limpida, confermi Grode. È più limpida, ma se fa un altro passaggio gli do esattamente l'ok, se mi è permesso. Avanti Romeo. Ok, vediamo un pochettino se, va, se è perfetto adesso, perché come ha detto lui l'ho messo in, come quella frequenza come ha spiegato lui. Vediamo un pochettino questo passaggio come è stato. Non sono convinto, puoi venire avanti un'altra volta. 1, 2, 3, 3, prova, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vediamo un pochettino come sta andando. Ragazzi, io ti sento qua, guarda, mi appare che se, qua ti sento davvero limpido, 27.078. No, io sono 27.075. Ripeto, vabbè, ti ripeto, forse ho un problema io, adesso vedo un attimino. Non vuole essere... Vabbè, andiamo avanti, è possibile che, ti ripeto, sia il mio apparato che ha un po' di problemi. Grazie. Non mettiamo sempre carne nel fuoco e poi si brucia, la radio non c'ha niente, Antonio sta usando il gemello del tuo, quindi è possibile, se lui è a 27.075.00, ripeto, sta usando la radio uguale al tuo, esclusivamente col microfono normale, tu invece stai usando quello al tavolo, quindi è possibile che vi ascoltiate male. Stacca l'NB 1 e metti l'NB level tutto al massimo. Fatto, ora, ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, ma ti ripeto, il problema forse è la parte mia, poi la parte sua l'ho risolto, ma non è quello, non voglio fare il perfettino, non ci mancherebbe. Anche perché questi qua sono apparati che anche se li spostate è relativo, è importante che poi c'entri la persona e vai da Dio, capito? Comunque Antonio, è un vero piacere ritrovarti qua, io credo che tu nei giorni passati abbia fatto, spero, un po' di radioascolto, dai, sempre sulla 27. Ma, come stavo dicendo a Claudio, oggi ho dato una spazzolatina così, sono rimasto una mezz'ora, però su questo canale non c'era nessuno, ho sentito qualcheduno dei camionisti, non so su che canale era, no? E non, poi sono andato anche sul canale 5, e non ho trovato nessuno, e allora poi ho spento, me ne sono andato da un'altra parte, stavo ascoltando un'altra parte. Però guarda, di solito è strano, perché di solito comunque questo canale è sempre, c'è sempre qualcuno in ascolto, io lo tengo quando meno sempre acceso, poi è possibile che magari in quel momento mi sia allontanato, ma non vuole essere una giustificazione, ma esclusivamente il fatto che in frequenza, soprattutto ultimamente, c'è parecchia gente. No, guarda che io oggi alle 2:20, 2:15, 2:15, io ho acceso l'apparecchio oggi, ero spento, cioè spento, tra parentesi, ero il 27 e poi mi ho spostato, me ne sono andato in altra roba, diciamo, no, se c'è l'apparecchio uguale al mio, giustamente ti piace anche evacuare un pochettino, ed ero in altra roba, eppure non c'era nessuno, stavo ascoltando questi camionisti, tre o quattro erano, e basta, e ogni tanto andavo su questo canale e non c'era nessuno, guarda. Ma una chiamata l'hai fatta? Sì, ho fatto una chiamata, ho detto canale 10 c'è nessuno, non mi ha risposto nessuno. Ah, parodia, dai. Ho capito. approfittare un attimino di assenza, un attimino di stacco, ma sempre più raro sarà che questo canale sarà vuoto, assolutamente. Non vuole essere una giustificazione da parte mia, però voglio che venga preso come canale di riferimento quando una persona ha qualsiasi tipo di problema su questo canale, può fare una chiamata ed è bene che qualcuno ci sia a rispondere, a rispondere presente soprattutto. Avanti Claudio. Ok, sono passato anch'io col K, giusto perché volevo capire un po' come avevate le modulazioni, qua siete precisi, perfetti e allineati. Ho spento il baracchino e quindi va tutto bene. No, vorrei anche che stai attento, magari toccando anche lì il volume, che sposti il ritmo, se dici qualcosa, controlla sempre sul display cosa vedi, in modo che insomma abbia un po' più di attenzione, perché lì basta spostare un pelino qualcosa e già inizi a sentire distorto, a sentire un po', perché la radio è perfetta, c'è una trasmissione ottima, centratissimo, quindi non lo so, vabbè, lascia perdere quello che stava provando Luigi, che abbiamo riscontrato che c'è un valore di differenza, ma qua siamo tutti e tre con la stessa radio, è all'incirca, tranne io che sto usando il 440, Antonio sta usando il C80, tu stai usando il 140, quindi diciamo dalla stessa razza sono tutte e tre, perciò non ci stanno problemi. Avanti Romeo 1. Ok, sì, non qua io diciamo una volta che l'ho messo a posto, diciamo a meno che non sia leggermente, ma una volta che io sento a voi lo metto in perfetta sintonia, poi al limite qualcuno si accorge se per caso sono leggermente fuori sintonia, ma come mi hai spiegato tu, diciamo mi stavano chiamando, hai capito? L'apparecchio sta funzionando perfettamente bene, poi l'ho provato in altre cose e va, diciamo, fuori da qua, è venuta una persona, l'ha provato e si è reso conto che funziona tutta alla perfezione. Assolutamente sì, adesso in questo momento eri centratissimo, tanto è vero che si è sentita anche la ragazza, la persona che c'è dietro di te. Adesso sei proprio perfetto, non so per quale motivo, però adesso ti ho sentito, adesso stai modulando alla perfezione. No, era mia figlia che mi stava dicendo di abbassare un po' le voci, siccome ce l'ho dietro col computer. mi stava dicendo di moderare un po' la voce. Questi figli, no, io c'ho la mia stanza. Però anch'io devo abbassare la voce quando la gente è a letto, se no mi devo praticamente chiudere, morire al caldo. Ok, no Anto, ma Gode, Antonio Gode, sicuramente avevi l'NB1 inserito, e quello è una cosa micidiale, quando inserisci quello, se la distanza è vicina, magari non è che agisce, ma se è lontana te lo porta in distorsione sicuramente. Avanti Grotte. Non era quello, però ho rischiacciato il RIT, ho un attimino messo a puntino di nuovo, ho buttato di nuovo a destra, un attimino a sinistra, ho visto che l'ha centrato come adesso e non ci sono assolutamente problemi. Quindi tutti gli altri sono andati in QRT, ma non ho sentito Falchetto, come mai non si è sentito oggi? No, c'era stasera, poi non lo so dove è andato, non lo so, è un po' assente in questi giorni Antonio, non so perché, vi farò due chiacchiere, vediamo se c'è qualche problema, perché non lo sento molto sereno in questi giorni, non lo so, vedrò di farmi due chiacchiere di persona. Spero anche che non moduli con il rit inserito, non lasciare il rit inserito, perché anche quello ti porta a uno spostamento di 10 dall'altra, e quindi l'importante è che il RIT rimanga sempre a zero, come ti ho fatto vedere io, e quando non ci dici i decimali del RIT devono essere a 0,0. Così sono, così ho provato, mi hai sentito anche sicuramente, e ho rischiacciato, rimesso in off il RIT, quindi tutto a posto, assolutamente, tutto centrato, dovrebbe uscire più che bene. E sono più che soddisfatto della cosa. A dirti la verità, mi sarei voluto sentire in cuffia, cosa, opportunità che non ho in questo QTH, perché non ho le mie cuffie Sony, che sono le mie fedeli cuffie che mi fanno sentire veramente come sto uscendo. E tutto bene. E preparati per questa riunione, perché sto già per fissare la data, quindi credo che per una questione burocratica non ce la facciamo questa settimana, ma sicuramente sarà un martedì o mercoledì. Luogo da definirsi, e ve lo comunicherò sicuramente o venerdì o sabato. Infatti la stessa domanda mi ha fatto Antonello Barracuda. Ho detto c'è in programma la riunione, il presidente sta verificando alcune cose, poi ci confermerà, ci farà sapere, anche per le varie eventuali le cose che ci sono in programma, come Scalapiccara a ottobre, stavo dicendo, e tante altre cose che appunto poi il direttivo varerà e si farà una domanda di ammissione da presentare all'ACI, che poi ce ne occuperemo io e tu. Stavo spiegando Antonio appunto queste cose, e mi ha detto quando sarà la riunione, non lo so, il presidente sta verificando, sta vedendo, sicuramente sarà entro fine mese, insomma, sicuramente. Il posto, ho detto, non lo so lo stesso, da definire, queste saranno cose che vedrà il direttivo dove e quando. Capo, non voglio un attimino rimpallare la cosa, fare un po' di ping pong, chiedo scusa ad Antonio. Sì, il problema è questo, che siamo nati in un momento dove c'erano le dichiarazioni dei redditi. Siccome un'associazione si può registrare senza nessun problema scendendo giù all'agenzia delle entrate, è un processo burocratico abbastanza celere che non ha problemi, però proprio perché volevo che non ci fossero intoppi, che non ci siano intoppi nella compilazione di quello che è il nostro statuto, né tantomeno nella registrazione della cosa, ho messo tutto in mano a una professionista che giustamente aveva la denuncia dei redditi sulle spalle e in un secondo momento le ferie, perché purtroppo grazie a Dio, anzi, siamo d'estate, quindi si è trascinato più del dovuto l'acquisizione del codice fiscale della partita IVA che sono stata alla base poi per presentare la domanda alla FIRCB, perché come ho detto gli appuntamenti dal punto di vista burocratico e statutale, facendomi passare il termine, sono registrazione dell'associazione, iscrizione alla FIRCB e dopodiché sai meglio di me dove andiamo a parare, e cioè ci sarà il riconoscimento della protezione civile, e quello comunque si avverrà, queste tre cose, queste tre fasi, una delle quali è già avvenuta, le altre due avverranno sicuramente prima di Natale. Sì, sì, non c'è nessun problema. Era giusto per rispondere a Antonello, mi ha fatto la domanda, io siccome ne avevo già parlato con te, gli ho risposto, poi ho detto per varie ed eventuali consulta ad Antonio, e ti darà lui in merito le risposte più adeguate e definitive. Ok, va bene. Romeo 1, a te il microfono. Ok, non se dovreste discutere nessun problema, vi ascolto tranquillamente. Giustamente state decidendo di alcune cosettine e vi trovate in frequenza, ne parlate in frequenza di questo problema. Io comunque sto ascoltando in cuffie, ho le mie Sennheiser, allora c'hanno queste cuffie, minimo, allora 28 anni, 28 29 anni hanno queste cuffie qua, sono le HD 400, quelle da DG, vediamo un pochettino se tu le conosci, Antonio Sugrotti. No, negativo, purtroppo no. Mentre io ti vorrei chiedere appunto se tu lo conosci, tale Luigi Pacman, che è un OM, quindi un vostro collega, a cui innanzitutto è di origine croata, però vive da una vita, scusando il gioco di parole, qua a Sassari, La prima, proporrò il primo riconoscimento, che sarà appunto la pergamena Nikola Tesla, proporrò appunto che gli venga conferita, perché è un OM che si trova adesso in una casa di riposo e forse è uno dei più vecchi modulatori, sicuramente di Sassari, ma anche della Sardegna forse. La sua sigla è IS0JYR. No, non mi viene niente questo nominativo. Passi pure, non so, passi Claudio, che lo conosca, però non è a tutta l'idea, però non modula più questa persona. E purtroppo in casa di riposo non gli hanno fatto tenere gli apparati, quindi lui era, credo che abitasse ad Alghero, e gli hanno fatto, smantellato la stazione, credo che fra l'altro parecchi apparati li abbia regalati, io spero che siano andati quantomeno in buone mani. E niente, no, non modula più da un po' di tempo, anche perché stiamo parlando di una persona che ha superato i 90 anni. Non è una... Passi pure che l'abbia sentito, però a ricordarmi i radioamatori ce ne sono parecchi che ricordo, ma non questo qua, non abitava a Sassari o ad Alghero proprio? Ma il sito dell'ARI lo dà come residente ad Alghero, quindi credo sia abitasse ad Alghero. È iscritto all'ARI di Sassari o all'ARI di Alghero? A dire la verità, scusami, ho utilizzato una forma, o meglio un malattoppismo, non è iscritto all'ARI, o meglio non l'ho letto nel sito dell'ARI, l'ho letto sul sito QRZ, perché stavo cercando appunto informazioni su questa persona perché me l'hanno segnalata, e quindi sono arrivato appunto alla sua sigla tramite il sito di QRZ, non so poi se sia iscritto all'ARI di Sassari, o sia mai stato iscritto. Non ne ho la più pallida idea. Vediamo un pochettino. Claudio, l'hai mai sentito questa persona? Sì, Techman era un grande modulatore degli anni 80, perlomeno. Io qualche volta l'ho sentito negli anni 80. Abitavo ad Alghero, via 20 settembre. Ed era scritto sì allora la sezione di Alghero, sezione di Alghero. Poi questo della casa di riposo non lo sapevo, io pensavo che fosse un riconoscimento di morte, basta, che sia ancora vivo, non lo so, dice appunto che c'è comunque. Non credo che non abbia più rinnovato la licenza e la patente, ma comunque il nominativo rimane iscritto agli atti, perciò il riconoscimento gli si può dare anche dal radioamatore. Assolutamente, ma infatti io non vorrei che lui, sai, comunque siamo i fratellini piccoli, io spero che apprezzi lo stesso il riconoscimento che gli vogliamo dare. Lui comunque è in una casa di riposo qua a Sassari, è una casa di riposo anche fra l'altro abbastanza vicino a dove abitiamo noi. È quella che c'è vicino a te? Kappa Roger. Allora già conosco il direttore sanitario, conosco tutti i figli, no? Viene anche più facile, stai fermo, viene anche più facile incontrarlo, quindi. Io devo dire la verità, ho un po' di paura a fare questi festeggiamenti, è un po' come quando festeggiano le persone che compiono 100 anni, dopo una settimana li leggi sul giornale, perché gli togli quella tranquillità e quella serenità, provano delle emozioni particolari e li squilibri leggermente, però questa persona, so che a detta del nipote che mi ha proposto la cosa o mi ha portato all'attenzione della cosa, sta bene, quindi non ci dovrebbero essere questi problemi, perché l'idea è proprio quella di organizzargli un piccolo rinfresco, un piccolo festeggiamento, poi ci verranno fornite delle foto, faremo delle piccole proiezioni, comunque dai, un qualcosa di carino. Bene, io lo sai che non ci sono problemi, organizziamo il tutto, poi alla riunione se ne parlerà e vediamo un po' cosa fare. Va bene, è giunta la mia ora comunque. 10 e mezzo, sto parlando con te, ogni tanto chiudo gli occhi a te. Quindi un saluto circolare a tutti quelli che sono in ascolto, compresi gli SWL naturalmente, non parte di Claudio Sparviero. Antonio Romeo 1, un saluto anche a te, domani mi controllo la posta così mi rilevo ciò che hai scritto e poi ci sentiamo per telefono, così passo anche il numero di telefono al presidente, ad Antonio Grode, in modo che se ti deve contattare ti contatterà anche lui al telefono. Un saluto a te Antonio Grode e un saluto alla signorina, eccetera eccetera, e ci sentiamo domani, stessa ora, stesso canale. Quindi ascolti finale e poi chiudo la nanna. Allora, microfono per Romeo 1. Ok, ti ringrazio carissimo Claudio, ti auguro un buon QRT, vedo che sei abbastanza stanco, specialmente la giornata di oggi che era molto calda. Casomai poi se domani leggi il messaggino che ti ho lasciato sul computer, mi dai un trillo o al telefonino a casa, così ci sentiamo e ci troviamo, così dobbiamo chiarire una questione, dobbiamo chiarire che ti avevo chiesto una questione, ti avevo chiesto, poi quando ci troviamo in verticale ne parliamo di persona. Va bene, io rilancio il microfono a Antonio Zugrode, avanti a te il microfono. La parola Claudio, mi hai sentito, ben ascoltato, grazie per il questione anche di oggi, grazie per quello che sai, non c'è problema. Buon 144 e ci sentiamo tutte alle prossime. Domani se hai voglia di prendere un aperitivo, fammi una bassa e non c'è problema, con vero piacere. Sarà fatto. Spero di potermi liberare più in fretta possibile domani, perché si avvicina al fine settimana e alla fine. Gli orari di chiusura, diciamo, sono sempre gli stessi. Va bene, rinnovo allora di nuovo la buonanotte a tutti, compresi gli SWL che sono all'ascolto, e ci sentiamo domani. Vi lascio al vostro questio. Buonanotte a tutti. Antonio Romeo, sarà fatto, così ti ripeto, passo anche il numero di telefono ad Antonio Grode, con tuo permesso, e così se ti deve dire qualcosa in privato, anche il tuo numero, e vi sentite al telefono. Per te il microfono, buonanotte a tutti. Ok, d'accordo, ciao Claudio, casomai ci sentiamo domani, dai. Ma tu devi fare l'esame, Antonio? Kappa, devo fare l'esame per la sessione di ottobre. Ma ti hanno già avvisato? No, negativo, perché? No, perché sai, a volte non ci sono molti iscritti, allora ti spostano di un mese. Guarda, ci dovremmo essere, a dirti la verità, non mi sono ancora iscritto, ma mi ha detto che non ci sono problemi, comunque tenevano conto della mia cosa, della mia iscrizione, perché ho telefonato direttamente giù in via Brenta, e adesso lunedì comunque mi metto in contatto con loro e formalizzo l'iscrizione. Sì, devi fare il versamento, devi fare la fotografia con autentificata, la fotografia, marca bollo, mandane una solo e attaccata a quella foto dove è autentificata, poi l'altra se supera l'esame gliela dai, se non lo supera l'esame te la tieni in tasca. Caballero, non lo credo, ma ti stavo dicendo, realmente cosa viene il versamento, cioè la tassa d'esame quant'è? La tassa mi sembra sia 25 euro, adesso non mi ricordo bene, io ce l'ho scritto in un fogliettino quando ho fatto la mia, perché anche io non ho più neanche una copia, perché ho fatto male a non fare un paio di fotocopie, no? Sai, a volte fai un versamento, poi puoi sbagliare facendo un versamento. Infatti una volta ho fatto una fotocopia 1, però ho dovuto mettergli roba sopra per fare questa fotocopia, perché anche questo devo fare la domanda. Comunque negativo per quanto con concerne la paura che mi hai una volta palesato, se non sbaglio eri tu, il fatto di non frequentare più la 27 una volta patentato. Io credo che poi alla fine non si debba mai rinnegare il passato, che poi è un presente, è al pari di dire, cioè sono due frequenze diverse, sono due atteggiamenti diversi. L'OM mi sa più di persona che va oltre frontiera, cioè che non conosce, tra l'altro, frequenta poco gli OM se non durante le riunioni, però gli OM della propria città. È normale, cioè un qualsiasi locale non avrebbe motivo ad essere con apparati così potenti che ti mettono nella condizione di andare sicuramente oltre. Quindi, ti ripeto, frequenterò le due cose parallelamente e anzi mai pensato assolutamente di mollare la 27 con i suoi pregi e coi suoi difetti, a volte anche troppi. Sì, uno decide la strada che deve prendere, io giustamente ho deciso di prendere quella strada, poi ogni tanto, casomai una volta superata il problema, fatto quell'esame e poi al limite ogni tanto quando non ne ho voglia di stare là, vengo qua e faccio la mia chiacchieratina, perché là è tutto parte tecnica, in poche parole, sai determinate cose, guarda, non so se tu fai ascolto là e ne sentirai delle belle cose, anche là se ne dicono parolacce, perché ne ho sentito anch'io parolacce, specialmente i romani o napoletani, ne senti, infatti dico, capita, questa è una frequenza di signori, ma è stata è proprio frequenza più o meno come 27. Ma non so se hai notato poi che anche la 27, almeno qua a Sassari, comunque una raddrizzata ce la stiamo dando. Io faccio sempre riferimento perché mi è capitato anche di ritrovare, vabbè, un piccolo ricordo del passato. E diciamo che rispetto a 20 anni fa, comunque le persone, forse perché sono cresciute, forse perché i primi ad andare via sono proprio quelli che non erano intenzionati a vivere la 27 in un certo modo, comunque le cose sono cambiate, c'è comunque più un minimo di educazione in più rispetto a quello che c'era prima, almeno fino a 20 anni fa, quando io ho mollato, il motivo era proprio quello, che erano persone scurrili, maleducate, dove non andavi da nessuna parte, portanti e cose sicuramente poco piacevoli. Poi il paragone fra il CB e l'OM è al pari di rimanere a casa e parlare con i propri familiari, uscire fuori e parlare con gli amici fuori. E sicuramente poi anche fuori trovi le persone poco corrette, anzi a volte sono proprio quelle da cui ti aspetti qualcosa che ti tradiscono e sono le persone peggiori. Sì, quello lì è senz'altro, guarda, no. Anche perché lì quando stanno facendo una chiamata che gli interessa quella zona, stai tranquillo che tu con quella persona non ci parli, e gli interessa quel personaggio, quella, diciamo, vogliono fare la Germania e basta, l'Italia non gliene fotte niente, devono collegare solamente quella zona lì. Purtroppo il 27, diciamo, a me mi è sempre piaciuta la 27, anche perché anch'io mi sono fatti i miei bei collegamenti fuori dall'Italia e via dicendo. Adesso vediamo un pochettino là quando riuscirò a passare questo benedetto esame, voglio vedere cosa succede anche lì, se è così difficile questa questione qua. Vabbè, adesso sono anticipato la settimana tropica, dei soremi che sono io, anche che ho preparato, insomma, che è dopo lì, e ora sono qui che mi dico soddisfazione. Sì, te lo auguro. Io, a dire la verità, per come modulavi, pensavo già lo fossi tu. Sì, è sicuramente una situazione bella, è passata prima, anch'io sono, anche se non è preparato e ripreso insieme a cui camminare a nessuno. Quindi tu sei SWL. Affermativo, ma io ce l'ho da parecchio la cosa di SWL. Poi l'avevo smarrita e ho richiesto un duplicato e me l'hanno mandato da Cagliari. Sì, ho fatto l'esame a, non mi ricordo se, maggio, giugno o luglio, non mi ricordo bene, eravamo in 6 e c'erano tutti e 6 un calcio nel sedere fuori da qua, 30 domande, tre domande, una è giusta e due sbagliate. Però diciamo, bisogna studiare, guarda, c'è gente che parecchie volte che va lì, un signore di 65 anni che era l'ottavo esame che dava. Guarda, ma faceva anche appena, ma perché non glielo danno? Quello lì senz'altro lo usa come passione, quest'uomo sarà anche da solo, neanche sposato. Addirittura è partito alle 4 del mattino da Valle d'Uglia per essere lì alle 8 del mattino. Guarda, ma ha fatto anche appena quest'uomo. E poi un perito elettrotecnico, guarda, 56-57 anni, ed era la terza volta che andava lì per l'esame, bocciato. No, senza pietà, non guarda in faccia a nessuno. Ma domani tu le domande a prassi pure che le hai fatte giuste, le domande, non sai niente, loro ti dicono sì, no, ha sbagliato 5 domande, bocciata la prossima volta. Ma sì che ce ne sono troppi e non li vogliono troppi radioamatori in mezzo alle palle. Ma guarda, io credo che la differenza, ritornando alla differenza fra CB e radioamatori, che sia già il costo delle radio, il costo degli apparati, comunque che inizia a scindere le persone, nel senso che sia esclusivista come situazione per questo motivo, perché una radio, un baracchino ce lo possono comprare tutti. Quindi come oggi ho fatto un calcolo per tirare su una stazione base, bastano davvero pochi soldi, con 150 euro si è arrivato, quindi chiunque se lo può permettere, perché un'antenna come la Ringo con cui ti sto trasmettendo costa 38 euro, un pezzo di cavo arrivi a 7, 8 euro, 10 euro, un alimentatore ne costa 50, un baracchino come quello che avevo, l'Intec, adesso non mi ricordo, M120 Plus, una cosa del genere, comunque una scatola di tonno, come la chiama Claudio, ne costa altri 60, quindi intorno ai 150-160 euro può iniziare già a modulare. Un apparato radioamatoriale, obiettivamente con 150 euro non te lo fanno vedere neanche l'involucro che compri. Quindi capisco, vero è anche, io capisco anche la severità, e poi tornando a bomba sull'esame, delle persone che ti stanno un attimino scrutinando, mettiamola così, ci deve essere, perché non stai uscendo più con 4 watt, se non sbaglio hai fino a 500 watt di uscita, cioè se vuoi fare danno, soprattutto un'altra cosa, hai a disposizione degli apparati con delle frequenze particolari. Se non sei savio, come si dice in inglese, ma sei un fuori di testa, puoi fare danni e creare problemi e dare fastidio in certe situazioni a certe persone, quindi non è il caso, è bene che sicuramente se veri lo siano. Ma guarda, se uno vuole fare danno può fare danno come siamo noi anche adesso, e guarda, basta che ti sposti un pochettino, sai già, perché sai più o meno le frequenze dove devi bazzicare tu, perché devi stare da qua a qua, non puoi sbagliare, scusa un attimino. Poi riguardo le apparecchiature, guarda, l'alimentatore, già che l'alimentatore, diciamo che costi il mio un 30 ampere sui 60 euro, poi il cavo 50 metri di cavo, l'H155, bassissima perdita, costa altre 59 euro, tu immaginati un po', poi l'antenna qui te la danno senza radiali, perché questa è una allora 10, 15, 20, 40 e 80, no? Sarà solo lo stilo centrale, poi se vuoi i radiali devi pagare a parte. Infatti è stato anche un problema trovare il radiale, perché ho ordinato l'antenna da un'azienda di continente e me la sono trovata senza il radiale detectato, e sono andato bene, e ho dovuto cercarmi il radiale di un'altra azienda, e sono costato un bel po' di soldi. Quell'apparecchio che sto facendo arrivare, so chi ce l'ha e ho visto che funziona benissimo. Costa parecchio, ti sto dicendo, perché se vai a prendere il negozio costa, io l'ho trovato per di meno e sono soddisfatto. Anche questo che sto utilizzando, che non è di mia proprietà, è di un amico, ce l'ho io in gestione, siccome lui ne ha un altro, gli ho fatto anche il lavoro a casa sua. Dice tienilo tu, di te mi posso fidare tranquillamente, perché sa che io parlavo in 27, dodiché si è fidato ciecamente. Infatti su questo apparecchio ci voleva un 30 ampere, e infatti ho ordinato un 30 ampere come apparato, e lo sta portando abbastanza bene, perché ogni tanto c'è la ventola che si accende per raffreddare l'alimentatore, l'apparecchio vedo che funziona benissimo, non mi ha mai creato problemi, il cavo c'ho quello a bassissima perdita, è attaccato, ma non mi posso lamentare. Ok, a te di nuovo il microfono. Sì, no, a proposito del fatto che loro siano severi, devono essere, perché come dici tu, chiunque si può comprare un apparato e creare problemi, gli stessi problemi che può creare un patentato o potrebbe, però una cosa è che la licenza te la diano loro e quindi si stanno assumendo la responsabilità loro di quello che un domani farai, una cosa che tu da tra virgolette pirata, quale siamo stati un po' tutti, ti metti nella condizione di creare problemi. Una volta che loro ti danno la patente, sai, per loro è una grossa responsabilità, soprattutto se non ti hanno scrutinato bene. Quindi, tra virgolette, li capisco anche la loro condizione. Poi è vero anche che sì, un po' di sovrappopolazione sì, c'è nella, diciamo, non in queste frequenze, su quelle radioamatoriali. Quindi è bene, a dirti la verità, è bene che lo siano. Io credo che se una persona di 85 anni si presenta lì per l'ottava volta, cioè evidentemente se l'ha tentato otto volte o desisti o attacchi il sederino alla sedia, dai. Poi una, due, tre volte capita a tutti, non c'è problema. Poi adesso sto parlando così, magari vado lì, mi danno una craccata che la metà bassa. E a proposito di questo, ti dico, ma quanti errori si possono fare? Errori ne puoi fare, mi sembra, tre ne puoi fare, tre o quattro, 22 domande mi sembra che puoi rispondere, ma guarda che le frequenze, mica, scusa Martino, tutti avanti, io non ne ho mai fatto un radioamatore, no? E voglio prendere un sito, la patente, mi metto sotto, studio, no? Vado a Cagliari, dove già, e beh, quale frequenza posso adoperare? Mica loro da Cagliari ti dicono, se deve stare in questa frequenza così, così, così, in quest'altra frequenza così, così, così. Scusa un attimo, se uno è bravo, riesce a prendersi la patente e dice, dove cavolo devo andare qua? Scusa un attimo, uno che non ha mai fatto radio, che si vuole prendere, che vede la radio per la prima volta, gli piace, si mette sotto, studia, la taglia dall'esame, boh, si piglia, e dove, quale frequenza le posso adoperare? Loro mica te ne dicono, no? Mi sembra, ce li ho scritti io tutte le frequenze dove posso rimanere, ascoltare e parlare, diciamo, le frequenze che sono stabilite dal Ministero delle Poste e delle Comunicazioni, ma mica Cagliari loro te lo mettono in compito, no? Loro ti mettono altre cose sulle domande. Sì, da questo punto di vista infatti io avrei inglobato la patente, forse a renderla ancora più difficile, però con almeno un paio d'anni di SWL, cioè di radioascolto. Per quello che dico poi, chi si vergogna di essere stato un CB, non vedo perché, anzi, l'essere un CB è un'ottima scuola, chiaramente uno poi vuole di più e quindi si mette nella condizione di diventare OM. Però non esiste, secondo me, diventare OM senza essere stato prima CB. Per una serie di motivi, al pari di guidare la moto di grossa cilindrata senza aver provato prima la bicicletta. No, non va bene, innanzitutto perché ti insegna quantomeno a interloquire con le persone una alla volta, comunque seguire determinate regole, anche se a volte non ci sono. Però diciamo che sicuramente siamo i fratellini piccoli, come tali degni di rispetto anche noi. Sì, è giusto. Cioè, al limite, dico questo, mi vuoi far fare l'esame? Metti un'apparecchiatura lì, fai tutti i collegamenti dell'apparecchiatura, io ti lascio tutti quanti gli spinotti mollati, attaccami l'apparecchiatura e poi devi sapere tu dove andare nella frequenza. Al limite, momentaneamente, mi dai una sigla per poter uscire e poi mi fai fare l'esame. In poche parole, un esame di pratica, non diciamo uno scritto, 30 domande, ho bisogno di vedere se uno c'ha mente che la cosa la tiene in testa, e c'è quello che la tiene, c'è quello che la perde un pochettino la memoria, perché come fate a certa età la memoria un pochettino va via, non ti credi che hai 20 anni, 25 anni, 30 anni, uno non ne va a una certa età, la memoria inizia a perderla, è carissimo. Lo so. Ci mancherebbe, ti chiedo questo, tu che non l'hai persa, vista la giovane età, ti ricordi qualcuna delle domande, ma giusto per riuscire a capire realmente dove andare a parare, qualcuna delle domande che ti sono state fatte? Ehi, guarda, non me ne ricordo, guarda, ero talmente incazzato che mano anche... erano 30 domande, guarda, ero talmente incazzato che le ho fatte tutte 30 così, non me ne ricordo, guarda, non mi ricordo proprio alla perfezione, guarda, se tu mi chiedi, ma tu che domande, non me ne ricordo niente, ero talmente incazzato che poi mi hanno anche ripreso quando sono uscito fuori dall'esame, perché in un'ora abbiamo fatto l'esame. In un'ora, perché cioè non era roba esame proprio di rianimatore, non ne aveva niente. Infatti ho fatto compilare le domande quando sono uscito fuori, che eravamo tutti quanti consegnati, perché i primi siamo stati io, questa signora anziana, poi a ruota gli altri, poi quando sono usciti tutti fuori, bello stronzo che non sei altro, dice neanche un'ora ci hai messo a fare l'esame, potevate rimanere altre 4 ore qua dentro, dice dove invece in un'ora avete terminato tutto, e abbiamo mollato, guarda, per me non era un esame da rematore, per me lo reputo sulla base della tecnica, diciamo, delle apparecchiature e via dicendo, ma di quelle domande, guarda, ce ne saranno 3 o 4 parte di elettronica e basta, poi altra roba, è tutta altra roba, guarda. Tutta altra roba che un po' mi preoccupa, nel senso che, sai, il tempo, 30 domande in 4 ore mi sembra decisamente eccessivo. Un'ora va bene, perché un'ora significa che hai 2 minuti per ogni domanda, considerando che ci sono anche le domande che conosci, quindi non c'è bisogno di ragionare, sono fulmine, sale la percentuale dei minuti che hai o la percentuale di tempo che hai per le altre. Quindi un'ora è giusto, un'ora vuol dire che ci hai pensato abbastanza, non troppo, 2 minuti sembrano così, ma sono parecchi, vogliono dire il doppio del tempo che da quando hai iniziato a modulare adesso. Volevo dire molto, perché la possibilità è leggere la domanda, le 3 risposte e dopodiché ragionarci e mettere la risposta giusta. E questo è il fatto che non ci siano dei libri non molto specifici, o meglio specifici, ma non ti danno il giusto indirizzo, perché è molto generico la cosa, capito? Quindi mi interessava appunto capire, tanto è vero che in questi giorni cercherò qualcosa su internet, se riesco a vedere qualcosa, perché non so poi alla fine che tipo di preparazione, su cosa soffermarmi propriamente. Io ho acquistato un libro, preparazione per gli esami, per il patente rianimatore, perché io me lo sono comprato, no? E bisogna vedere da lì, perché c'era questo signore perito elettrotecnico, e ci aveva il libro, e gli hanno detto, quando hanno visto il libro, e il libro dice, faccia una cosa, lo metta lì su al 180, e non lo apre per niente, e le calcolatrici le dovete mettere lì, i telefonini li dovete mettere tutti lì, tu figurati un po' che se in verità c'è. Io mi sono preso questo libro qua, l'ho acquistato e vediamo un pochettino, poi casomai te lo faccio vedere il giorno che ci troveremo insieme a Claudio, così ti rendi conto più o meno cosa studiare e vedi un pochettino, perché guarda, alle domande che ti fanno loro di quel libro lì c'è poco e niente su questa roba. Quindi a questo punto uno si mette nella condizione anche di andare a tentarselo, perché realmente se le domande sono generiche e non ho capito ancora realmente di che cosa trattino, tant'è vero che adesso mi hai messo la curiosità di andare a vedere su internet su cosa vertono, diciamo, le domande, su cosa verte il programma, perché realmente loro ti dovrebbero dare un programma di esame. Io non so se questo qua viene dato, perché ti ripeto, io sto studiando, devo alla fine ancora iscrivermi, ma penso che in 2 mesi, abituato agli esami dell'università, riesca comunque a buttarmi dentro un po' di roba e con l'infarinatura che ho adesso sulla radiantistica riuscire a superarlo. Poi nel caso contrario sarò affiancato al vecchietto e ci ritroveremo la 16ª volta, ingrasseremo un po' le tasche dello Stato, perché 25 euro mi sembrano anche eccessivi per un esame, vabbè. In effetti hai ragione, perché cioè mi devi dare almeno due possibilità, come una patente di macchina, mi devi dare la possibilità di fare due esami, cioè sono bocciato, allora dammi una seconda possibilità, invece no, questi qua, scusa un attimino, sono un pacco di soldi, perché 15 euro e qualcosa costa la marca da bollo, poi ti portano i 10 euro di fotografia, poi devi andare a autentificare una fotografia in comune e ti costa un altro po' di soldi quella roba lì, più il versamento, e devi fare tutto raccomandata con ricevuta del ritorno a Cagliari, direttamente lì in questo ufficio. Poi se sei bocciato, è buono per te, se sei bocciato è male per te, se sei promosso è buono per te, però purtroppo è un macello, guarda, anche a me mi ha dato fastidio questa questione, non ci possiamo fare niente, guarda, l'unica cosa, guarda, cioè per me, io esame non avrei fatto, ma al limite mi fa fare una cosa pratica, metti un'apparecchiatura lì e mi dici vogliamo andare i 40 metri, io vai e vado i 40 metri e ti piazzo l'apparecchiatura ai 40 metri, collegami tutta quanta la roba e basta, e poi mi dai la sigla e poi vedi un pochettino con la cappa, cioè tu pigli allora quelli che sono sopra gli aerei, che portano gli aerei, che stanno con le radiotrasmettenti, dove c'è una patente per comunicare con la torre di controllo oppure per comunicare con altre postazioni. Sì, ma guarda che è capitato, ma non perché sentiti in frequenza, ma perché sentiti di persona, sentiti in presenza delle persone che stavano modulando, diciamo persone che ne facevano un uso professionale, non saper comunicare in radio, perché per assurdo, adesso ti faccio un esempio, i vigili urbani o chi per loro, i marracelli o comunque tutte quelle persone che usano la radio, mi è capitato di in presenza loro, cioè io di fronte, loro che stavano modulando, e capire che diciamo che non avevano tutta questa confidenza nel saper usare la radio. Sì, ma c'è gente che è imbranata, che non sa usare il radio, diciamo, io adesso, guarda, se no, quant'è la seconda volta, la terza volta che io entro qua, no? Diciamo, sono da parecchio che l'apparecchiatura che non la uso, a limite la uso qualche volta da altra parte, ma diciamo facendo delle prove, basta, ma se no, guarda, per me è impossibile usarla. Se a me mi avessero fatto fare un esame, venga, lì cos'è, così, va bene, no, io lo uso dal periodo così, dal 72-73, poi ho fatto la domanda come SWL, poi la licenza l'ho smarrita e ho fatto la richiesta, diciamo, duplicato, e me l'hanno rilasciato duplicato. Uno che ha usato un'apparecchiatura, addirittura a me me l'hanno anche preso uno dentro la macchina, i Charlie, non mi ricordo che anno era, il 74 mi sembra, 73 o 74, che ancora eravamo pirati dell'aria, e non so che fine ha fatto quell'apparecchio lì, figurati un pochettino, ce l'hanno messo all'asta e tutte quante queste cose così, e purtroppo non me ne frega niente. Ormai è andata così, ho deciso per questa roba e ci devo riuscire per forza. Vabbè, assolutamente sì. Ma quindi te l'avevano sequestrato? Sì, a me me l'hanno sequestrato uno dalla macchina e mi volevano portare via la radio, poi l'antenna della macchina. E io gli ho detto no, lì l'antenna non la tocca, perché se vede bene, siccome il bollo prima si pagava il bollo e c'era la barra, no, nel bollo, chi c'aveva l'autoradio in macchina, chi non c'aveva l'autoradio era il bollo rotto, non so se l'hai conosciuto tu, il bollo quel tipo lì. Allora siccome io pagavo la tassa dell'autoradio, a questo tipo gli ho fatto, guarda che lì l'antenna non la tocca, perché io pago il bollo dell'autoradio, quindi che lì l'antenna la lascia. Lui voleva sequestrare le cuffie, gli ho detto guarda che le cuffie non sono le mie, sono di quel mio amico che c'ho vicino. E basta, lì io volevo fare una cosa, si prende solo l'apparecchiatura e basta, la terminiamo lì. e poi mi avevano mandato un'ammenda di 30.000 o 33.000 lire di contravvenzione da pagare alle casse dello Stato e via dicendo. Ho pagato questa cassa esattoriale, non mi ricordo, cassa del tesoro, mi ricordo, però l'apparecchiatura non ho saputo più niente. Capo, purtroppo succede così, nel senso che a seguito e a causa di leggi obsolete, purtroppo, se ti fidi ti creano più problemi dal punto di vista penale se ti trovano con un apparato non in regola, piuttosto che magari se compi un atto illecito, uno scippo o un qualcosa davvero di gravoso dal punto di vista penale. Ma perché le leggi secondo me non si sono evolute da questo punto di vista? Io ricordo che lo stesso era capitato che una persona di mia conoscenza non sapeva che ci volesse per il VHF marino la licenza, e cioè quella che adesso si chiama licenza, se non sbaglio, patentino limitato di radiotelegrafista, o patentino di radiotelegrafista limitato, una cosa del genere. Comunque l'hanno accostato quelli della Guardia Costiera per chiedere i documenti della barca, e siccome c'era un po' di difficoltà di comunicazione perché il mare era un po' agitato, questa persona ha detto a questo capitano di salire sul natante, quindi gli ha dato l'ok perché salisse sul natante. Come ha messo la testa dentro la barca, questo qua ha chiesto, la prima cosa che ha chiesto era la documentazione, il patentino per l'utilizzo dell'UHF. Questo era completamente ignaro. Ha detto che non lo avevo, morale, l'hanno denunciato ed è andato in penale, cioè è andato in penale per il possesso, quindi neanche l'utilizzo, per il possesso del VHF senza la giusta licenza. Ora, dico, una pena pecuniaria va bene, nel senso è giusto che una persona paghi un'ammenda perché ha sbagliato, però da sporcargli la pedina penale per una cosa così ridicola mi sembra un po' eccessiva. Ma guarda, le leggi italiane a volte, uia, è uno schifo, guarda, non se ne può più. E a me me l'avevano lottata, e mi sono messo la fulina penale, anche 30.000 e passa io per uso radio ricevente trasmittente non autorizzato dal Ministero Poste e Telecomunicazioni. Ma io infatti a questo tenente che ho detto, ascolti, siamo tutti quanti pirati dell'aria, li ho fatto. Detto, c'è anche una persona che conosco, che è più o meno come voi, gli ho detto. Ho detto, provi a telefonare questa persona, telefonata questa persona, non c'era. E allora ha telefonato al pretore, il pretore gli ha detto, se questa è l'apparecchiatura. A me mi è dispiaciuto, diciamo, per l'apparecchio. Mi è rimasto nella gola, in groppa mi è rimasto dell'apparecchio. Poi non so se l'hanno messa all'asta, non ho saputo più niente. Fuori Sassari saranno 70 km da Sassari, penso. Non mi sono poi più interessato, ho detto, ma che vadano in quel paese, loro e l'apparecchio. E poi me la sono ricomprato nuovo. Ma che apparecchio era esattamente? È un Tattarino a 23 canali, però funzionava benissimo. La cosa triste sarebbe ritrovarlo in giro, capito? No, triste, nel senso che sicuramente una persona deve essere avvisata dell'asta, o comunque che fine fanno questi apparati? Cioè, se vanno al macero va anche bene, però se poi magari, sai, ne fanno un altro uso, non sarebbe molto carino. Ma io penso che le vendano all'asta, come quando sequestrano i fucili da caccia che non trovano i proprietari, vengono tutto all'asta, vengono questa gente. Io, guarda, ti dico la verità, non ho saputo nulla, non mi hanno mai cercato, ma non so, ho cercato sicuramente per pagarmi questa ammenda di 33.000 lire e basta, e poi non ho saputo più nulla. Cappa di ordine. 33.000 lire sicuramente allora erano parecchio, sì, comunque il bollo quello con la Q, con lo zero sbarrato adesso ne ho un'immagine un po' frammentaria perché stiamo parlando di un po' di tempo fa, è passato un po' di tempo. Niente, mi si sta abbassando come sul dire la modulazione, mi sa che è venuto il momento di andare in QRT, perché in 144 lo sono già, ecco, questa scarica che hai sentito è l'ultima delle zanzare che ha ucciso la macchinetta. Ti ringrazio per il QSO 73, buon 144 quando lo farai, e Antonio Grode ti saluta, spero di sentirti presto su queste frequenze, perché è piacevole modulare con te, dai. Ok, ok, ti ringrazio, buon 144 anche a te. Mi guarda, io adesso devo cercare una questione e poi metto tutto in stand-by, perché domani mattina un po' presto ci dobbiamo sentire con una persona. Vabbè, tanto domani mi dovrebbe telefonare Claudio, perché gli ho mandato un'email, gli ho lasciato i miei due numeri di telefono, poi casomai te lo farà avere anche a te, perché così ha detto poc'anzi prima di andare in QRT. D'accordo, ci sentiamo 144 e a risentirci alle prossime. Caparoli, è tutto ricambiato. Ciao ciao. Ciao ciao.